Ma noi diciamo chi stiamo. Parto io così, no, prendo sempre in giro l'Afra, che siamo molto amici, perché riesco a dire qualcosa adesso forse, perché no, io parlo tanto. Lei parla tanto, sì. Però potete interrompermi e non mi offendo comunque. Questo è. Se ci riuscite. No, parte scherzi. Io sono Sergio Carlo. Mi piace descrivermi come un ex, nel senso che ho fatto tante cose, appena imparo qualcosa cerco sempre di inventarne un'altra. In più sono praticamente un ex di Trento Rise, che l'ha citato, nel senso che stiamo chiudendo, quindi questa volta non è una scelta. Prima di in Trento Rise mi occupo di progetti di innovazione nell'ambito turismo e cultura, quindi cerchiamo di usare la tecnologia per costruire delle soluzioni che migliorino la qualità dell'esperienza turistica, la qualità dell'esperienza culturale, partendo, e questo penso che sia molto in linea con la serata di oggi, partendo, siamo quello che noi chiamiamo innovazione sociale, quindi partendo non tanto dall'organizzazione, dal museo, dall'albergo, ma partendo dal turista, dal visitatore, eccetera. Prima sono stato in Trentino Marketing, ho curato la comunicazione digitale, quindi tutta la parte legata al web, quando sono arrivato lì 7-8 anni fa, e poi dopo tutto il mondo mobile, social, tutto il mondo dei social network di Trentino Marketing, di Visit Trentino, è partito con me 5-6 anni fa. Prima ancora ero un ingegnere, ma prima non mi piace raccontare neanche, nel senso che di formazione sono un ingegnere, ma insomma adesso mi occupo di tutt'altro, mi occupo di comunicazione, mi occupo appunto di innovazione, di cercare di capire come la tecnologia può aiutare le persone a vivere meglio, piuttosto che fare cose nuove anche tante volte. In tutto questo quindi, diciamo, mi è capitato di lavorare con Barbara, ci conosciamo da 3 anni, abbondanti, penso. Percorso ci siamo trovati bene insieme, perché percorso anche umano molto simile, nel senso che Sergio in questo senso è stato molto più strutturato, quindi lui è fascia ingegnere e ha seguito un percorso che ha in qualche modo deviato da quella linea strettamente tecnologica, ma che comunque ha mantenuto un filo conduttore di qualche coerenza. Nel mio caso questo non è accaduto. Io nasco con una formazione completamente diversa, perché nasco con una formazione giuridica, anche se evocata comunque al diritto commerciale internazionale, eccetera, che ho voluto proprio perfezionare su una materia come quella del turismo, del marketing del territorio, che 20 anni fa era assolutamente la parola chiave che apriva qualunque tipo di porta. Da lì ho continuato più verso il marketing, e si è questo incrociato con una passione personale, anche un interesse familiare, visto che la mia famiglia comunque aveva degli interessi anche in materia turistica, uno stabilimento balneare, degli appartamenti, un residence, alcune attività di ristorazione collegate a questo business, il discorso turistico, che nel tempo si è accompagnato, appunto si è incrociato con questo discorso di marketing, e quindi abbiamo sovrapposto la parte di comunicazione e di promozione a quella del territorio, inteso come attrattore turistico in senso lato. Quando parliamo, Davide ha fatto un discorso prima anticipando che sono stati incontri molto diversi, quelli che avete visto in queste settimane, in realtà sono tutti molto diversi, ma tutti comunque accomunati dal fatto che se qualcuno non ve ne parla, non ve li racconta, non li racconta, quegli incontri non esistono, quei contenuti non esistono, quelle persone non esistono probabilmente. Quando parliamo di storytelling non parliamo soltanto di raccontare qualcosa, ma anche di raccontare qualcuno. E quando parliamo di provare a orientarci nel mondo del lavoro, dobbiamo imparare a raccontarci noi rispetto al mondo del lavoro. Non si trova lavoro non raccontando se stessi per bene. Non è più il curriculum lo strumento per raccontarsi. Chiunque va a controllare chi siete sui social quando riceve il vostro curriculum. Un curriculum scritto male, e vi posso garantire che l'Europass è un curriculum scritto male, l'Europass, che tutti abbiamo compilato almeno una volta nella vita, perché ci viene chiesto di compilare esattamente in quella maniera, non racconta niente di noi. Tanto che infatti qualunque selezionatore, pubblico o privato, poi se ne va comunque su Facebook a cercarvi o vi digira comunque su Google per capire chi siete, che tipo di immagine avete, che tipo di narrazione fate di voi. E da quello valuta molto spesso se concedete o non concedete anche un colloquio, ed è fondamentale imparare a raccontare e a raccontarsi. E quindi come professionisti e come privati lo storytelling torna assolutamente come elemento fondante di qualunque strategia di approccio al mondo, che sia un mondo privato, che sia un mondo professionale in qualche maniera. Quindi quello che vi racconteremo adesso, almeno che vi racconterò io brevemente come contestualizzazione, vuole essere innanzitutto motivante a ragionare secondo certe logiche, o comunque ad incamerare certe logiche come indispensabili e fondamentali. Abbiamo chiesto, Sergio mi ha chiesto prima quanti di voi usassero la comunicazione social anche per uso professionale. Io do per scontato stasera che non abbiate resistenze culturali rispetto alla tecnologia, Lo do per un semplice motivo, perché potreste anche averne, potremmo anche averne un'intera di resistenze culturali. Il punto è che però sono indispensabili ormai quelle tecnologie. E fargli resistenza vale fino a un certo punto. Per cui si può continuare a fargliela sicuramente nel privato, ma si deve giocare con le regole che comunque sono quelle condivise, esattamente, il mondo va avanti. E quindi prendere atto di una serie di cose e cominciare a eliminare una serie di sovrastrutture che riguardano sia la nostra posizione rispetto al mondo del turismo e della cultura, sia i preconcetti che abbiamo, che sono pregiudizi in qualche maniera, anche però nel senso di precedenti a una reale constatazione, che ci deviano molto spesso da un percorso lineare. Vi faccio un esempio. Se dovesse raccontare il Trentino in tre elementi fondanti, che tirereste fuori? È una domanda, quindi datemi pure qualche elemento che vi viene in mente al volo, così subito, secco. Abbondante. Perfetto. Un altro? L'acqua. Questo è ben interessante. Un altro ancora? Enogastronomia. Ok, c'è qualcos'altro? I boschi, la neve. Quindi montagna, natura. Ok, montagna, natura. Secondo voi questo esaurisce il Trentino? Quanto altro conoscete, e datemi qualche altro elemento, che secondo voi non è sufficientemente valorizzato? Castelli. Castelli, bene. Volontariato. Ok. La storia. La storia. Ok. Qualcos'altro? Design, architettura, vi viene in mente niente? Cinema, non lo so. Tecnologia, perfetto, tecnologia c'è. Tutte chiavi di lettura possibili che non sono state sufficientemente sfruttate fino adesso, comunque che sono state soltanto magari in maniera marginale rispetto a eventi particolari, ma sulle quali per esempio molto spesso le situazioni territoriali hanno una base di contenuto che è potenzialmente capace di generare tantissimo impatto positivo e può comunque in teoria essere la base sulla quale costruire eventualmente una narrazione più articolata da incastrare su un prodotto poi ad hoc. Parlavamo di alzare il target verso un mercato di lusso, magari anche che per questa destinazione intesa come destinazione Trentino. Però il lusso vuole la sua narrazione, il lusso non si accontenta di montagna o di enogastronomia, ha bisogno di un racconto che sia tarato su quello che è in grado di comprendere, in grado di accettare anche, di acquistare poi soprattutto. Che non vuol dire piegarsi tout court alla domanda del turista, vuol dire imparare a conoscerlo. L'errore che si fa spessissimo nello storytelling è di presumere di sapere quello che l'altro vuole, e non è storytelling. È l'errore che si fa molto spesso anche nella comunicazione turistica. Molto spesso viene scelta di citare tavoli nei quali non compaiono turisti, non compaiono gli operatori, non compaiono gli esperti di comunicazione. Mettersi nei panni, sì, del nostro interlocutore è il primo passaggio, perché di non dire tanto io so, io immagino, io ma provo a mettermi nei panni come se fossi appunto il turista di turno. C'è questo ribaltamento della prospettiva che è fondamentale per comprendere i fenomeni di oggi, perché altrimenti la progettazione sia degli aspetti di comunicazione ma anche in generale dei vostri servizi che andate a offrire ai vostri clienti, qualunque se siano l'ambito turistico, culturale, ma anche in realtà vale per tutti gli ambiti professionali, diciamo 20 anni fa, 30 anni fa era, come dire, centralizzata. Adesso noi per primi come persone abbiamo assunto un potere di scelta decisionale legato proprio anche grazie alla tecnologia che ci permette di fare delle cose che qualche anno fa erano impensabili, e non accettiamo più che ci vengano imposti dei servizi poco diciamo non pensati per noi, no? C'è tutto il tema di cui Barbara parlerà molto bene del service design, cioè della progettazione dei servizi partendo dall'interlocutore, da chi li userà e non da chi li deve realizzare, che è un tema importantissimo che oggi è centrale. Se non si tiene conto di questi aspetti, oggi si rischia di sbagliare, insomma, di trovare, di offrire un servizio sul mercato e le persone scelgono altro, insomma. Sì. E prima hai detto una cosa che mi piace un po' stimolarmi anche, hai citato un curriculum, si guarda i social network, eccetera. Chi di voi potete dire, cioè, non spaventatevi, ha mai messo il suo nome su Google? Perché molti dicono, non si può dire, no? Lo fate ogni tanto. Di controllare. Sapete cosa si dice di voi su internet? No? Ecco, fatelo. No. Fatelo. Probabilmente perché scoprirete delle cose che neanche sapete, si parla di voi. Oppure, chiaramente questo vale, sicuramente siete una persona esposta, che fa delle cose che hanno un pubblico, e vale di più, ovviamente è chiaro che Renzi, per dire, avrà più citazioni di noi, però vale in generale. Ed è fondamentale proprio per mettersi nei panni, su questo vale tantissimo la comunicazione, di chi percepisce il nostro messaggio. Noi, noi due che stasera siamo qui, pensiamo di dire le cose, anzi diciamo delle cose, però quello che noi immaginiamo voi possiate comprendere dipenderà certamente da voi, quindi non è così scontato sapere come, come sarà l'esito. Quindi il fatto di appunto googlarsi, come si dice, è un termine orribile, ma insomma non è sbagliato, c'è certo, no, come certe cose non si fa ma non si dice, no, si può benissimo dire, non è vantarsi, no? Anche perché non è che fate in due ore, insomma, quindi no, esatto. Non c'è nessun tipo di ego da, da compare, cioè, semplicemente una osservazione reale da, da, da monitorare appunto su base regolare per capire che tipo di risposta ottenete da quello che fate. Se poi invece avete un servizio pubblico che offrite appunto sul mercato, c'è tutto il tema della reputazione, perché questo è il tema, cioè che cosa dice, cosa si dice di noi del nostro servizio in rete, che è un tema fondamentale. È appunto lo storytelling che facciamo di noi del nostro servizio, quanto è efficace, quanto viene percepito. Oggi, molto più che 10-20 anni fa, ci sono dei feedback direttissimi nel turismo, è evidente, no? Sotto il tema delle recensioni, degli alberghi, per dire dentro booking.com, dentro TripAdvisor, ma di tutti i servizi turistici ormai. E questa cosa un po' alla volta sta arrivando su tutto, no? Se voi, si parlava prima dell'economia della condivisione, se voi prendete un passaggio su BlaBlaCar, sapete cos'è BlaBlaCar? Sì, sì, no? Ecco, perfetto. E c'è tutto un tema della fiducia, ma io non ci vado in macchina con quello lì, sì o no? Chi è? Quanti anni ha? E si schianta al primo pilone. E come si fa a fidarsi? Se uno ha, non ha mai preso non ha mai dato un passaggio, uno è un po' titubante, allora faccio la traietta a Roma e niente di più. Prima di andare fino a Catanzaro, prendo uno che ha 118 recensioni, tutti che dicono guida dentro nei limiti, si ferma, beve il caffè quando è stanco, queste cose qua. No? Quindi questo aspetto della reputazione è strettamente legato alle cose che ti diremo stasera, perché la reputazione non è che un pezzo di noi, è quel pezzo di noi che noi in realtà, che non siamo noi, è quello che gli altri pensano di quello che facciamo, noi come persone, noi come cose che facciamo, quindi servizio che eroghiamo, se siamo un albergo, la qualità del nostro servizio, ma anche, diciamo, un po' alla volta sta arrivando anche su altri ambiti che non sono quelli del turismo, anche la cultura in maniera molto significativa, i musei, una volta si stanno aprendo delle destinazioni. Le destinazioni, cioè io vengo da una città che ha una reputazione pessima. È colpa di Maria. Non c'è più neanche un sindaco da accusare adesso. La mia città ha una reputazione pessima. La mia città, il sindaco precedente, ha avuto un momento di grande gloria perché il vice sindaco che godeva la delega al turismo si era convinto di condurre una crociata nei confronti di Berlino che faceva dei numeri sicuramente maggiori rispetto a quelli di Roma e non riusciva a darsi pace del fatto che Berlino potesse avere dei numeri degli arrivi e delle presenze più alte dei nostri e non riusciva a entrare in testa, sebbene sia stato spiegato tantissime volte da più persone diverse con background completamente diversi, che è un problema di percezione, è un problema di mercato, è un problema di interesse, è un problema di sfumature molto spesso. Non si va soltanto in una destinazione perché è bella o perché ha un patrimonio storico e culturale interessante, perché deve interessarti quel patrimonio storico e culturale, devi essere in grado di comprenderlo e non tutti lo sono, ci andiamo a patti con questa cosa. Noi presumiamo che tutti siano interessati al patrimonio italiano, non è vero, non è assolutamente vero. Sono interessati quelli che hanno avuto una formazione che gli ha permesso di riconoscerne il valore e che comunque lo hanno mantenuto nel corso degli anni, perché anche aver fatto il liceo classico non garantisce di mantenere l'interesse per l'antica Grecia. È un dato di fatto oggettivo. Questo però non spiegherebbe destinazioni come Ibiza in certe parti o come Rimini, che sono state fortissime per 40 anni. È evidente che c'è un altro tipo di attrattori che entrano in gioco. E se non si tiene conto di quelli, non si può lavorare sulla propria destinazione in maniera adeguata. Roma non ha repeaters. Roma è una città dove le persone vengono una volta nella vita come vanno alla Mecca, perché ci devono venire. Tornano forse la seconda con i bambini per fargli vedere comunque il Colosseo e i gladiatori. Ma non è Barcellona, dove ogni volta che esce un biglietto Ryanair tu acquisti e vai. Non è Londra, dove ti comporti nella stessa maniera, nonostante sia carissima, per esempio. Non hai quel tipo di slancio nei confronti di Roma. Perché? Perché la percezione parla di qualcos'altro. E se non scendiamo a patti con quella percezione, non c'è piano strategico che tenga, non c'è consulente che possa aiutarti. Se non ascolti chi si muove, chi viaggia, e ne percepisci i perché e le motivazioni, non puoi mettere in campo nessuna strategia che sia adeguata, non puoi neanche reindirizzarne la percezione. Non devi obbedire a quello che vogliono, ma devi reindirizzare il pensiero e l'interesse. E per farlo ti servono strumenti adeguati. Sì, anche perché la percezione non è soltanto legata, cioè, al, a quello che può offrire un territorio, nel senso che noi ci ripetiamo, no? Sempre la solita litania, siamo il paese più bello del mondo, poi c'è chi dice abbiamo la metà dei siti UNESCO, non è vero, ma comunque siamo il paese che ne ha più di tutti, abbiamo la Sardegna che è un mare fantastico, più cultura di tutti ogni stato del mondo, è tutto vero, cioè che siamo un paese bellissimo è vero, ma non basta. Non basta perché dopo se ci sono delle analisi che fanno, ce n'è una la più importante, si chiama Country Brand Index, che vede, che guarda le nazioni come se fossero dei brand, come se fossero dei marchi, dove i valori che vengono presi sono sicuramente le bellezze architettoniche, culturali, i musei, le spiagge, eccetera. Poi dopo ci sono elementi come la sicurezza, per dire, no? Come per dire la qualità della vita, la qualità, la logistica. Trasporti. Perché c'è bellissima la Sicilia, praticamente impossibile arrivarci. Se sono bene, se sono bene. Piuttosto che anche lo stile e non voglio chiamare la fittosità, però il modo in cui interagisci con i locali. Per cui la tua esperienza, quando tu visiti un paese, non è soltanto questo Colosseo magnifico, certo, tutti rimangono incantati dal Colosseo, però se dopo sono lì un po' timoroso perché mi scippano, alla fine... E il truffatore, la sporcizia. Piuttosto che la sporcizia, la metro che mi lascia a piedi, piuttosto che una città che è chiusa, che fa soltanto, ma bellissima, meravigliosa, dentro in straordinaria, ma a 2 chilometri dal centro non c'è più niente, mentre Londra, tu poi in qualunque direzione vai, da 15 chilometri, sei in qualcosa di interessante, hanno costruito una serie di servizi e di valori. Quindi da questo punto di vista, questo fa parte anche della narrazione, di quello che è un territorio, una destinazione, ma anche il singolo museo, perché dopo in realtà un territorio è fatto di una narrazione complessiva ed è fatta da una narrazione singola di ogni interlocutore, di ogni portatore di interessi che vive quel territorio. Tutto questo messo insieme nel momento in cui, inutile che ci diciamo, è ovvio che in questo momento chi è che andrebbe in Belgio? Io ho portato per Parigi fino a 2 mesi fa, ci porto le bambine a febbraio e mi sono detto, boh, ci andrò probabilmente, però insomma, questi elementi sono fortemente significativi. Cioè, nel senso che è evidente, dopo lasciamo anche perdere gli elementi eclatanti, no? Quando un attentato tirando un aereo, come è successo sul Mar Rosso, è chiaro che sono in vacanza, chi lo fa? Ma in generale c'è un percepito che è composto di tantissimi elementi. E non basta soltanto mettere il cartello bello e dire Pompei. Pensiamo a Pompei, è un posto incredibile. Eppure, quando 2 anni fa il British Museum ha fatto una mostra su Pompei, sono riusciti a raccontare Pompei in maniera straordinaria. Senza avere niente. Hanno fatto solo un bellissimo racconto di Pompei, hanno fatto un film, eccetera. E quella mostra ha avuto, non ricordo quanto, un botto di... che noi non siamo capaci di fare. Ma è possibile che Pompei deve andare a Londra a vedere Pompei? Poi dopo vado a Pompei, arrivo lì. Gli scavi sono meravigliosi. Adesso stanno anche migliorando recentemente. Sì, poi quando metti il naso fuori... Esatto, non sai dove parcheggiare, non c'è un ristorante, quindi mordi e fuggi. Arrivi lì, guardi gli scavi, scappi subito e forse vai sulla costiera amalfitana, se sei bravo, se no finisci, non so, a Parigi, a Londra. Quindi la capacità di coinvolgere, di influenzare le persone, di dare un messaggio positivo dipende tantissimo non soltanto dal valore in sé, ma anche da come lo sai raccontare. Da questo punto di vista, gli americani sono incredibili, loro non hanno niente, chi è stato in Stati Uniti lo sa, hanno qualche bellezza naturale, sì, cioè in realtà su un territorio così ampio è poca roba. A Filadelfia c'è il Parco Nazionale di Regge, questi qui dell'Orso Yogi, dell'indipendenza, perché nel 1776 li hanno firmato, tutto ricostruito, c'è niente di originale. Che non sarebbe stato tanto antico neanche se fosse. Ma no, c'è stato anche tutto ricostruito e vai lì però è molto bello, perché sono molto bravi a raccontarti la storia che era successa 2 anni prima. Con tutte cose, casetta di legno ricostruita, e qui è la ricostruzione del banchetto dove si era seduto George Washington. Sì, quello lì, vabbè, insomma, tutti sappiamo che fosse questo. Ascoltiamo dal video questa citazione sul primo chiunque fosse. Sì. Comunque, insomma, sono molto bravi a raccontare e a vendere anche altra cosa che non possiamo capaci di fare. Perché lì un gadget su tutto, cioè negli Stati Uniti, non sono esperti, bravissimi. noi facciamo quasi fatica, soprattutto nel mondo della cultura. Adesso le cose stanno un po' cambiando, ma l'approccio classico della cultura italiana era conservazione e mantenimento. Fantastico, perfetto, ci mancherebbe, è importantissimo. Però dire, non facciamo le ovvie dal vista, perché poi si rovina, no? Queste bacheche, questi vetri grossi così, che cioè, non riesci minimamente a entrare in relazione. Infatti uno dei motivi dello straordinario successo, perché è straordinario il successo del Muse, è proprio questo coinvolgimento, questo fatto che tu sei parte del Muse. Tu sei dentro e vivi un'esperienza in cui tu, che tu in qualche modo, non dico che potresti essere lì al posto dell'orso, no? Insomma, però lo puoi, non dico, non puoi toccarlo, ma sei lì. Cioè, è particolarmente evidente rispetto a quello che era il museo in precedenza, non era assolutamente super classico prima, quindi comunque questo cambiamento così drastico sicuramente ha avuto un impatto più forte che non in altri contesti. Pensate che in tutti i musei che in Italia, tanti bellissimi, nel 2015 il museo è stato l'ottavo museo più visitato. Un museo, adesso spero che non mi senta Lanzinger, vanno 8, nel senso che c'è dentro orsi, marmotte, sono quattro cose, ragazzi, cioè, dire, cioè, ci sono animali passati, ci siamo anche lavorato, comunque siamo anche di parte, sì, però, è bellino, però sono quattro cose, ecco. Rispetto agli Uffizi, vuol dire, o quel che volete, cioè, o la museo scienza di Milano, volendo, cose, esatto. Però è un museo ben gestito, ben strutturato, il cui programma di comunicazione è stato molto coerente. Ecco, la coerenza è un elemento fondamentale nelle narrazioni. Cioè, è uno spazio di aggregazione. È uno spazio di aggregazione, perché è stato, ha mantenuto un messaggio coerente in ogni aspetto della sua attività. Da quella educativa con i bambini a quella che ha fatto di comunicazione ospitando comunque eventi aggregati al sociale, perché spessissimo fanno anche questo tipo di eventi. Ha avuto logica di coerenza anche nel bookshop, nel negozietto piccolino che c'è, però hanno selezionato una serie di articoli in vendita che sono sicuramente quelli meno tradizionali che avete trovato nella vecchia edizione del museo, per intenderci. E qui apriamo un altro anche capitolo, il capitolo territorio a tutto tondo. Un territorio, se io penso al Trentino, e lo penso da forestiera, pur avendo vissuto per un po', io mi immagino il Trentino appunto la montagna, le mele e tutta una serie di altri dettagli. Se io mi approccio anche all'enogastronomia, per quanto mi riguarda, dopo un po' l'ho trovata anche francamente ripetitiva. Trovavo che fossero sempre canarelli dappertutto, sempre questo orzotto ovunque, salmerino come se non ci fosse un domani, ok? Detto da una che viene da fuori, cioè, vabbè, bello, una settimana, due, adesso che ci vivo, francamente, lo accuso un po' al colpo. Trovavo che anche tutto quello che fosse i gadget e i souvenir fossero abbastanza stereotipati. Tutto molto bello, ma sempre le stesse cose. Si comincia a fare un lavoro anche in Trentino interessante di abbinamento di manifatture artigiane con il territorio, ma alla riscoperta di elementi che sono di innovazione e quindi comunque andarsi a recuperare le vecchie manifatture con uno sguardo più contemporaneo. Ci sono diverse realtà territoriali che lo stanno facendo, una Italia Stories per esempio, che sta mappando le attività artigiane nel territorio più particolari, ci sta costruendo su delle storie e quindi fa in modo che diventino condivisibili a terzi anche estranei a quell'argomento, ne produce oggetti mettendo in collaborazione la manifattura artigiana con designer contemporanei e quindi innesta innovazione di design su un prodotto che è atipico e gli trova un mercato nuovo, che non è quello del turista che normalmente viene e acquista il manufatto in legno, ma è magari il giovane designer che vive a Milano o in un'altra grande città, magari straniera, che ha interesse a un oggetto più particolare che gli racconta però comunque un territorio. E tutto questo viene fatto su una piattaforma che a sua volta racconta una destinazione in senso lato. E la racconta a pubblici che possono essere diversi, perché ha creato il pubblico appunto degli appassionati della nicchia della manifattura, il pubblico che è appassionato alla destinazione in senso stretto, il pubblico che ha interesse semplicemente a nuove pratiche, a nuove forme comunque di collaborazione. Okay? Tutto questo però è nuovamente una narrazione e va sempre considerato il pubblico di riferimento, che è fondamentale. Se vi chiedessi quali pubblici pensate di non aver ancora toccato in Trentino, secondo voi chi è che ancora in Trentino, a parte i turisti del segmento russo, l'abbiamo già identificato, chi è che ancora non è stato sufficientemente coinvolto dall'offerta turistica e culturale del Trentino? Cultura lo intendo sempre come vocazione turistica, quindi come attrattori in qualche maniera. Se c'è un segmento ancora non toccato, secondo voi? Tutto il mondo, la Cina, possiamo dire. No, qui parliamo di mercato, intendo come tipologia di turista. Abbiamo lo sportivo che sicuramente viene. Abbiamo la persona in età che sicuramente si gode il clima, la stagione, il lago di Garda, eccetera. Abbiamo le famiglie. I millennials mancano. Il Trentino è un po' sotto i suoi millennials. c'è una fascia di mercato che è quella che in realtà in questo momento ha anche il potere d'acquisto più alto, è quella che ha il più alto tasso di crescita in termini di potere di spesa, che in realtà in questa regione, in questa provincia, è ancora non sufficientemente stimolata, perché manca un'offerta che sia pensata per quel canale in senso stretto, che è un canale che a sua volta ha all'interno estrema scocciatura, quindi comunque vanno trovati diversi prodotti e vanno identificati ulteriori attrattori diversi che possono matchare comunque quel tipo di domanda. Quindi va fatto un lavoro di segmentazione anche molto più importante, di osservazione del mercato molto più importante. Dopodiché, pensare di rivolgerci a mercati anche lontani può avere senso fino a un certo punto. I cinesi non verranno a uscire qui, non a breve. Dimmi se sbaglio, ma credo che possiamo concordare su questo punto. Non arriveranno neanche gli indiani, sebbene siamo 1,5 miliardi, non verranno, non dopo domani, neanche gli indiani. Peraltro faccio notare che la porta per l'India in Europa non è Mumbai, non è andare alla fiera di Mumbai o di Bangalore che aiuta a portare indiani qui, eventualmente a Londra, che è per loro la porta d'ingresso in Europa perché hanno tutti un parente o un figlio che studia lì e quindi entrano in Europa da Londra, si fermano un mese, 2 mesi, da lì cominciano poi a girare il resto dell'Europa. Per attirare eventualmente questo tipo di mercati ci vorranno almeno altri 10-15 anni per attirare in maniera strutturata, ammesso che ci interessino, ammesso che ci interessino. Basta fare un film di Bollywood, potremmo fare un film di Bollywood. Bollywood? Parlate con la Commission Trentina. Non ha fatto solo un film. Cioè, per dire, l'hanno in Svizzera, gli indiani, quindi... Hanno Svizzera, appunto, cos'ha la Svizzera? Che non ha le montagne che nei film di Bollywood fanno vedere... Attenzione, a non essere... Ha più delle montagne la Svizzera. Più, però. La Svizzera ha interessi finanziari importanti. Sì, è un paese turistico, però... Diciamo che si trovano in Svizzera per altre ragioni, a quel punto il cinema diventa anche un add-on, un plus. Ma volevo parlare di quello che ho fatto prima. Un cinese che deve venire in Europa, dove si sta più. Sapete come funziona? Sì. La reputazione, più lontano vai, più viene schematizzata in pochi, no? Diciamo, pizza mandolino, mafia, e purtroppo mafia tante volte. E Italia, molti vengono in Europa, no? Perché poi dopo. E noi pensiamo a dire il Trentino e dopo quando siamo in Trentino diciamo che no, la Roverete Trento, non confondiamo, no? È la fassa che quando dici San Martino, no, la guerra tra San Martino e Fiemme, perché ogni tanto vedi Fiemme fare le foto alle pale che si vedono da Pareggio, no? Che non esiste il Trentino per noi sotto Bologna, vero? Sì, cioè, nel senso che... È una regione, non sono provincia. Noi diciamo, quando diciamo andiamo a sciare in Trentino, sì, potrebbe essere San Cassiano, potrebbe essere Corvara, ok? Cioè, perché per noi è Trentino Alto Adige. Abbreviazione di regione, non sappiamo che esistono due province, non sappiamo con questa cognizione così di dettaglio. E soprattutto poi cosa c'è? Cioè, noi Valtaria è Trentino. Quando sei un turista, se tu vai appunto a Canastelli e poi riesci a fare il giro dei passi, non te ne accorgi neanche. Cioè, tu vai prima, passi dal Trentino, Alto Adige, alla provincia di Belluno, sei sempre a sciare, non è che dici. E però se vai all'ufficio informazioni di Canastelli, o anche quello di Sedona Cardena, o anche quello di Rappa, non è molto. E chiedi, ma cosa c'è al di là del passo? Beh, niente, cioè troppo fa una fatica. C'è questa distinzione, questa fatica, no? In realtà, almeno sul giro dei passi questa cosa è superata, però Trento è Monte Bondone no. Trento non ti manda fuori Trento a Capodanno, attenzione. O sul Bondone o niente a Capodanno. Certo, ma quindi funziona con il suo ambito territoriale, funziona così. Però questa cosa è molto limitante per il turista. Tornando al discorso della Svizzera, la Svizzera ha un prodotto che poi un prodotto inteso come qualità della ricettività e dell'esperienza che c'è costruita sopra, hanno località in cui sono 20 anni che investono per dire su località senza auto piuttosto che no. Cioè quindi non sono cose che si improvvisano. Tu vai in Svizzera e sei sicuro, cioè puoi avere il portafoglio come hanno queste persone che girano o le carte di credito, gold, black, qualunque cosa, stai tranquillo. Da noi magari anche in Trentino, magari ci stai tranquillo, ma loro vengono in Italia. In Italia, purtroppo l'immagine che diamo sono i fuochi di Napoli, sono all'estero. Di cosa volete che si parli? Certamente non del Corno della Montagna che va a cantare in parrocchia, ma si parla delle cose grosse, quindi dei gravi, purtroppo, eventi che ogni tanto caratterizzano la nostra territoria, che all'estero vengono ingigantite, evidente, insomma, così come noi facciamo fatica ad andare in Brasile perché o in Sudafrica, perché ci sono delle città che sono pericolose, in realtà il 95% del territorio è tranquillissimo, però si fa una fatica, no? Quindi non è soltanto la Svizzera meglio di noi perché ha... I giapponesi vanno a Cortina, noi riusciamo a portarli a Moena, cioè Ma vanno a Cortina, che Cortina ha un brand fortissimo. Torniamo al discorso del brand. Torniamo alla narrazione che Cortina ha fatto di sé negli anni, che è di una destinazione glamour. Molti vanno a Cortina e neanche sciano molto spesso. Si va a Cortina per, ma non si va a Cortina per lo sci, in realtà. Buona parte di quelle persone non va a Cortina per sciare. Va a Cortina perché è Cortina. Con lo stesso principio con il quale va a Ginevra perché è Ginevra. Noiosa da morire, straziante Ginevra, però è Ginevra. E ci si, ha, per non, ci si va per avere interessi finanziari che ti fanno fermare anche per il resto della stagione. Ginevra da aprile si riempie, ed è impressionante, l'ho visto con i miei occhi, di persone che vengono dal mondo arabo, che hanno acquistato una casa lì e passano l'estate interamente in Svizzera. Con la scusa del discorso finanziario hanno agganciato anche un mercato che è di altra natura, ma hanno un brand della Svizzera, nel caso del brand Impress dello scorso anno, era il paese al primo posto. Il brand più forte del mondo dello scorso anno era la Svizzera. Italia era 15esima, forse, sì, erano quasi un paio di secondo c'era il Giappone, e terzo era l'Australia, mi pare, sì, Canada, qualcosa, ok. Però la Svizzera era il primo paese col brand più forte al mondo lo scorso anno. E capite bene che ha un brand fortemente caratterizzato, ma in maniera positiva. Le banche, la cioccolata, gli orologi, il lusso, una serie di altri elementi che però sono distintivi e hanno funzionato nel loro caso. E loro insistono, le cose che funzionano. La precisione svizzera. Affidabilità, il messaggio che passa di affidabilità, di garanzia, di sicurezza, è uno stato neutrale che politicamente non si è mai esposto e questo comunque rimantiene anche al di fuori di certi discorsi politici e di certe crisi internazionali come quella che stiamo vivendo in questo momento, per esempio. Sono tutti elementi che comunque servono a costruire una narrazione. Se però è vero che non possiamo contrastarla con quello che abbiamo, perché non sta a noi, servirebbe un sistema nazionale di promozione turistica ben strutturato e ben articolato che aiutasse a raccontare il paese in un certo modo. È vero pure che però a livello di piccola realtà lo storytelling può aiutare moltissimo. Ad esempio la Transilvania, per esempio, che è una regione molto piccola e molto povera anche della Romania, dove è rimasta fino a poco tempo fa. Transilvania è un posto splendido, è un posto di una natura bellissima, molto selvaggia, che potrebbe somigliare forse alle nostre Dolomiti degli anni 60 come tipologia di come immaginario, perché è un posto con strutture assolutamente non all'altezza, vetuste, datate, obsolete, con servizi che non funzionano, ma con un paesaggio assolutamente splendido, veramente meraviglioso, dove piccole realtà locali hanno cominciato ad aggregarsi per raccontare il loro territorio. E quindi che fanno? Evitano di affrontare il problema in maniera massiccia, perché non sono in grado di farlo, ma lavorano su piccolissime porzioni di territorio, lavorano su piccole esperienze. E quindi l'esperienza del castello del Conte Lard, per intenderci, che diventa a sua volta un percorso enogastronomico, ed è un percorso anche in qualche modo educativo, perché ti racconta la storia vera del Conte Lard. Ti smonta una serie di leggende che sono servite moltissimo alla letteratura, al cinema e anche forse a qualche fumettista, però comunque non hanno contribuito tantissimo alla Romania da un punto di vista turistico, culturale, in senso stretto. E loro fanno questo lavoro piccolino di aggregazione di piccole esperienze con persone del posto, di coinvolgendo le comunità locali, che molto spesso non hanno anche le competenze da cui vengono formate durante il lavoro, durante le attività, a migliorare i loro standard qualitativi, per offrire un servizio che sia più comunque all'altezza delle aspettative, ma che racconta il tempo stesso il territorio. Esistono moltissime di queste realtà sulla Transilvania, fatevi un giro, sono tante piccole realtà associative molto interessanti, alcune sono confluite anche all'interno di piattaforme come Spotted by Locals e altre, che sono piattaforme che gestiscono l'incontro tra locali e turisti, e sono basate su un rapporto assolutamente peer-to-peer, quindi comunque non esiste nessuna guida ufficiale all'interno di quelle piattaforme, ma solamente persone del posto, residenti, che si classificano per interesse personale, disponibilità, una passione particolare. Può esserci il pittore, può esserci l'esperto di arte locale, che magari non è però storia dell'arte, può esserci l'economista, sono tante diverse realtà personali che si aggregano e raccontano il loro territorio. Questo accade anche in Italia, in realtà c'è Faberest, per esempio, che sta lavorando in questo momento anche molto col Trentino e col Veneto, che aggrega esperienze locali e le fa incrociare con una potenziale domanda. Ma hanno scelto un modello di business che è diverso, perché vanno a lavorare cercandosi altre associazioni simili alle loro. Non si sono buttati nel mare magnum della domanda turistica che c'è su Google, perché sarebbe folle, sarebbe impensabile per loro, senza nessun tipo di struttura e senza le dimensioni, competere con grandi operatori. Hanno cercato di farsi conoscere attraverso realtà molto affini alla loro. E quindi hanno lavorato su questo discorso di peer-to-peer e sta funzionando. Effettivamente hanno piccoli numeri, ma sono piccoli numeri interessanti, che sul loro piccolo territorio stanno generando comunque un movimento meritevole anche di attenzione. Posso fare un giochino per legarmi a questo? Supponiamo che voi, qualcuno dica, avete 500 euro, non una cifra enorme, ma neanche, però per fare un viaggio, e da qui nei prossimi 2 mesi. No? Organizzatevelo, voi cosa fate? Cioè, per organizzare il viaggio oggi. Un tempo si andava probabilmente dall'amico, cioè, il passaparola, eccetera. Quindi, 500 euro, entro stasera devi dirmi dove vai. Si comincia a fare Google, su Google scrive. Facciamo un caso. 500 euro. Ma sul sito della Ryanair, volendo, se vuoi andare fuori dall'Italia, cerca. Ok, poi? Oppure? Il viaggio low cost e quindi vedremo, potrebbe essere. No, faccio questa domanda, nel senso che è cambiato radicalmente il modo di viaggiare, nel senso che una volta prima uno sceglieva la destinazione, cioè io l'anno prossimo, a parte che si vede le vacanze, non è che se facciamo così tante, faceva la vacanza, racconto sempre che mia mamma invece è andata in Liguria. Il viaggio era sulla macchina e andata in Liguria, no? Penso che qualcuno mi ha detto che c'era un albergo, non so bene dove, e poi dopo forse l'ho girato. Non provavo neanche, no? Era fantastico. Parliamo del 66, parliamo del 50 anni fa. Oggi magari si fa proprio esattamente, uno non sa neanche dove va, un budget. Vado su Ryanair, scopro che Cracovia si va a 9,90 euro. Si va su Google, si cerca su Cracovia, Google Images, sembra Praga, ma dai, 10 euro. Tanto anche se non ti piace, con 10 euro. Esatto. Vado su booking.com, no? A quel punto scelta la destinazione, perché da Ryanair, vado su booking.com, trovo, prendo il budget, l'albergo di lusso, piuttosto che, perché certe volte, no? Uno va, viaggia con poche lire, e a quel punto ha più soldi per l'albergo. Quindi non è detto che chi va con Ryanair spenda poi vada allo stesso, anzi, no? E quindi vado a Cracovia. Questo funziona benissimo e ci sono pochissimi interlocutori nel mercato che si sono mangiati il mercato, no? Quindi per cercare vado su Google, per cercare un viaggio vado su Ryanair o su Expedia, oppure su magari se sono in zone, cioè dipenderà dagli aeroporti che attorno, ma insomma sappiamo EasyJet eccetera, e se c'è un albergo Booking, c'è altro? In Italia c'è esatto, oppure come? Sì, oppure vado su Trivago a cercare. Quelli disvaliziati già quando sono arrivati. No, per 7 anni mi sono citati hotel Trivago, ho detto, sai sta roba? Però sono andato a Trivago, non c'è 7 anni. Però diciamo, e questi qua sono attori internazionali che si sono mangiati il mercato. Nel senso che tu oggi, se non sei su Booking, è dura. Qual è una possibilità? Uno ci sta dentro, cioè non c'è niente di male sta su Booking, anzi, no? Intanto io sento le campagne, no? Federalberti, Booking.com, ci stanno rubando i soldi, ti portano la gente, ti fanno un servizio, è chiaro che li devi pagare, non fanno beneficenza. Poi dopo è complicata la questione, ma insomma, finché uno non è obbligato a stare dentro Booking.com, se ne sta fuori e lavora di suo se riesce, purtroppo non si riesce più. Qual è però una possibile alternativa? Come si può, diciamo, non dico star fuori da questo giro, ma crearsi appunto uno spazio proprio di offerta e di proposta che sia un po' meno intermediato, no? Un po' meno dipendente, perché dopo diciamo, Ryanair chiude il volo da Verona e noi siamo fregati, no? Deve andare a Bergamo e diventa tutto più difficile, o piuttosto che, soprattutto noi non siamo un volo, diciamo, comunque in Trentino pochi arrivano via, sempre in auto in Trentino. Ci sono destinazioni che Cracovia, perché è una, che vivono di Ryanair. Da quando c'era Ryanair hanno raddoppiato e duplicato i flussi turistici, ma Ryanair è incapace di dire, sai cosa? Mi hai dato, perché le destinazioni pagano per avere queste cose, ma hai dato 10 milioni di euro l'anno scorso per volare da te, adesso ne hai 15, se no io chiudo. E cosa fanno? Pagano booking.com. Ha questi atteggiamenti anche verso l'albergo, no? O mi dai 2 punti in più, oppure ti metto in pagina 74 e quindi non ti trova nessuno. Una possibile soluzione alternativa, complicata, ma che nel tempo può dare risultati, è proprio quello di costruire delle reti territoriali dove tutto il territorio, tutta l'esperienza si mette insieme e dove tu non vendi il singolo albergo piuttosto che il singolo servizio turistico, ma vendi proprio la destinazione. La destinazione è intesa come un insieme di tanti servizi che dialogano tra di loro, perché mentre una volta l'albergatore, il concorrente dell'albergatore era quello accanto, no? Perché come funzionava? Tu mettevi fuori il cartello Zimmerfrei, no? Zimmerfrei, la gente passava, sì, sì. E arrivavi al posto e ti fermavi, di qua, di qua, e quindi quello di fronte era il tuo concorrente. Oggi il concorrente del Trentino o di Fassa, ma è Pozza di Fassa, ma sono le Canarie, Cracovia, oppure cioè, quei posti dove un tedesco quando va su Ryanair, no, oppure quando prende la sua macchina dice ma dove vado stavolta? C'è molta più libertà. Molte quale ha visto una comunicazione adeguata, esatto. O per quale ha sentito parlare su alcune narrazioni specifiche. Sì. E a quel punto raccontarsi, ma non solo raccontarsi, ma proporsi anche come un unico territorio, è quell'elemento che nel tempo può permettere anche di differenziarsi, perché continuerò a vendere su booking.com, per non dicendo gente di male, pagherò le commissioni, allo stesso tempo metto in piedi come territorio un'offerta alternativa che non è l'offerta standard, perché è una cosa che avete visto su booking.com, perché funziona così bene, perché fa così tanti soldi, perché il prodotto è lo stesso dappertutto. Loro vendono la camera doppia, che sia a Cortina, che sia a Canastei, ma che sia a Sharm el Sheikh, a New York e a Adelaide. Vendono la singola, la tripla, poca roba, cioè cose molto standard. Se tu vuoi il territorio, quello che trovi fuori da quella camera d'albergo, devi andare dall'altra parte. Allora, Airbnb, uno dei motivi per cui sta avendo grande successo, è perché c'è la ricerca da parte delle persone di esperienze locali. Io vengo in Trentino, non voglio andare in un albergo che sono tutti uguali, non voglio un'esperienza stereotipata o standardizzata o ripetuta. Voglio andare a casa sua, no, a casa mia, in questo momento sto facendo trasloco, quindi in questo momento possiamo avere il massimo, però... Però che sono Airbnb c'è, esatto. Perché? Perché la casa sua o mia, che libera possibilmente, ma ci sono le camere, offre l'esperienza locale. Io vado, non vado, capito? E vedete i corridoi degli alberghi, no? Che funzionano solo quando vuoi fare la foto di Shining, no? I corridoioni, vuoi fare la foto di Shining che ricorda le bambine, allora fai la foto al corridoio, se no è tutto molto freddo, tutto molto, molto spesso, no? Sì. La casa, io sono andato a Roma all'Airbnb e mi sono fatto 4 piani di una scaletta su con le valigie, ma dopo ero in un posto unico, cioè sono 1 milione di posti unici così, però è una cosa molto diversa. Questa ricerca di autenticità, di unicità, di territorio, di quello che solo a Roma io posso trovare, un balconcino che vedeva il Pantheon, cioè una roba meravigliosa, Airbnb. Sì, nessuno non penso abbia mai avuto una vista. No, no. C'era l'altalena in soggiorno, vi dico solo questo, no? I miei figli ho fatto fatica a tirare via, andiamo a casa. E questa ricerca di autenticità e di territorio è quello che ci può differenziare, ci può permettere di essere, di tornare a essere una destinazione efficace e non voglio dire autonoma, non sto dicendo che è negativo stare su booking.com, però è giusto il territorio, soprattutto di questo potenziale turistico, perché in Italia siamo una delle regioni più efficaci, ci sia modo di gestire le nostre strategie, il nostro modo di proporci e il nostro modo di raccontarci. Quindi tutto questo fa parte di un progetto complessivo, complicato, perché... Però mi riaggancio a quello che dici di Airbnb. Airbnb è un ottimo modello, perché Airbnb non si limita a vendere le camere, ha cominciato a vendere le camere. Airbnb ha subito lavorato, per esempio, in parallelo per offrire quanto più possibile un'immagine che fosse coerente con quello che vendeva. Airbnb non si accontentava delle fotografie che voi mandavate delle vostre camere, vi mandava gratis il fotografo a casa. E non perché volesse che fossero tutte uguali le foto, ma perché voleva garantire a chi era dall'altra parte e sceglieva un'uniformità di standard, cioè valorizzo ogni struttura al meglio, perché magari io che sono proprietario non so fare una bellissima foto, ma non si è fermato lì. Ha chiesto ai proprietari, a tutti, più volte, scrivendoci direttamente o con eventi che ha organizzato sui singoli territori, di contribuire maggiormente con informazioni sulla destinazione all'interno delle singole schede dell'appartamento, per esempio. Quindi a tutti è stato chiesto di raccontare di più anche il quartiere, è stato spiegato come fare, siamo stati anche accompagnati in questo percorso in qualche maniera. Più recentemente Airbnb ha anche prodotto delle guide tematiche per destinazione, ma anche per quartiere. Io cercavo disperatamente la settimana scorsa un appartamento a Londra, dovevo finire comunque in un albergo perché l'appartamento non mi veniva comodo, ma ho trovato per ogni quartiere che cercavo, anche quelli che sono un po' più diciamo così, fuori dagli schemi tradizionali, quindi parliamo di Shoreditch, Whitechapel, sono quartieri anche abbastanza popolari a Londra, c'era la guida con quello che c'era interessante da fare in quel quartiere, perché anche se è un quartiere apparentemente periferico, ma più sfigato, in realtà è comunque interessante sotto il profilo dell'esperienza. Tutto questo è quel lavoro che in realtà ogni territorio in questo paese ha cominciato a fare, anche il Trentino ha cominciato a fare questo lavoro. Siete stati una delle prime regioni a sviluppare il discorso del bed and breakfast in maniera anche molto strutturata, una delle prime leggi comunque quella del Trentino sui bed and breakfast. Molti dei vostri B&B hanno una strada qualitativa eccellente, per esempio, però poi a un certo punto è mancata questa aggregazione di informazioni rispetto alla destinazione, per cui ognuno lavorava per sé, sono proliferate moltissime in realtà di aggregazione di bed and breakfast e B&B in Italia, e B&B in Trentino, B&B provincia Rovereto, B&B zona Trento, che lavoravano in parallelo, ma si è finito con preoccuparsi di riempire le camere e non di raccontare la destinazione, quando niente meglio di questo territorio, di questa struttura, permette di veicolare informazioni alle persone con un'altra modalità, perché il contatto che ho nel B&B è quello che potrei avere su un appartamento di Airbnb. Parliamoci chiaro, non sono niente di niente ragazzi di Airbnb, eh? Hanno organizzato come modello di business in maniera molto più efficace il servizio, ma non hanno inventato dal nulla un sistema di ricettività che non esisteva già, hanno aggregato e organizzato diversamente, con un drive, una visione molto più alta, che non siamo stati in grado di avere a livello diverso, a livello del bed and breakfast per esempio, o di ricettività alternativa. Mettiamoci anche il fatto che abbiamo sempre combattuto a livello istituzionale in questo paese, che combattono il bed and breakfast, come ora combattono Airbnb, e quindi comunque questa lotta intestina non ha aiutato a ragionare su discorsi che non fossero puramente economici. E ci si è dimenticati che è economico, ha un valore economico anche l'esperienza del turista che arriva. Perché se io gli offro un'esperienza complessiva di destinazione, di territorio, che comprenda appunto un contatto diverso con i locali, la possibilità di immergere in un racconto diverso, io spendo su quel territorio, io acquisto queste esperienze. Mi fermerò un giorno di più, prolungo il mio soggiorno, spendo di più in acquisti che poi riporterò con me a casa. I tour delle cantine significano vendere anche vino, non solamente la degustazione di per lì, ok? Significano comunque racconto che torna a casa con loro e gli permette di disseminare quell'informazione e consigliare quella destinazione ad altre persone. Le storie sono importanti, avete tantissime storie qui in Trentino, parlando di questa zona in particolare, peraltro poi, che è schiacciata da due grandi attrattori, diciamo così, che comunque siete un po' in mezzo tra Trento e Rovereto, in qualche modo fa voce, per cannibalizzare anche un po' la comunicazione turistica forse, ma è anche un'opportunità, siete comunque vicinissimi a due grandi attrattori e tutto questo sistema territoriale può davvero fare molto. Siete molte associazioni qui presenti anche nel sistema, sono 18 mi sembra, giusto? Esatto, sono tanti 18, è molto parcellizzata e questo è un grande valore, una grande ricchezza, perché permette una penetrazione sul territorio che altrimenti non si riuscirebbe ad avere, però può essere anche un grande limite se non è ben costruita e se non è ben armonizzata, perché rischia di disperdere gli sforzi che si fanno. E la narrazione deve essere complessiva, quella evidente, deve essere comunque una in qualche maniera, per trovare una vostra chiave di lettura che sia articolata sulla diverse voci, l'enogastronomia, lo sport davvero, e all'interno di quelle trovarsi delle nicchie non ancora fortemente battute, o lavorare su mercati come quello del lusso di cui parlavamo poco fa, che non è stato ancora sufficientemente valorizzato, e poi come sistema cominciare a raccontarlo, perché lo fate già in realtà, ogni volta che voi scrivete qualcosa della vostra destinazione state già facendo storytelling in qualche modo, anche se non è strutturato. E poi è difficile strutturare comunque uno storytelling, parliamoci chiaro, perché comunque ci vogliono strategie coordinate, senz'altro, però molto è rimesso anche all'energia del momento. Molto spesso vengono fuori narrazioni sul pezzo, perché comunque c'è un evento in corso in quei giorni, che accade qualcosa di estremamente particolare, perché l'orsa attraversa la strada con i cuccioli, come è stato fatto 2 anni fa. L'orsa che attraversa la strada con i cuccioli, con i cucciolini, sì, qui in Trentino. E hanno fatto il giro del paese e dell'Europa, forse anche c'è stato anche un'altra orsa che ha fatto un po' di quella, ha fatto un'altra po' di casino, e se poi vuoi aprirti con lo storytelling è vero, ne ha fatto un caso di storytelling importantissimo con l'Italia, però l'orsa che attraversa davvero la strada statale e le auto che si fermano per farla passare e le 4 o 5 foto e il mini video che vengono scattati sono girati per settimane. La percezione per me è stata, io ero già a Roma, era wow, il Trentino è un posto dove ancora gli orsi ti attraversano la strada, ci pensi dopo al pericolo di orsa con i cuccioli. La percezione fuori è guarda tu che meraviglia, loro hanno gli orsi in casa. Cioè è come essere in Canada, ma siamo dietro l'angolo da Milano. Capito? Che è una narrazione per un turista potenziale, una narrazione potentissima quella. non pensi alla paura, pensi al fatto che comunque la natura è così presente e così ben conservata che si permette il lusso anche di incontrare gli uomini nel quotidiano. E quello è un valore importantissimo in termini di comunicazione turistica. E quella è la percezione di cui parlavamo prima. Okay. Poi certo si massacra. Però c'è sempre il problema tra quello che vuole il turista o quello che è la sensazione del turista e poi effettivamente la vita invece del non turista, cioè dell'indigeno, cioè di chi vive sul territorio. Oh, arriviamo al discorso dei turisti interni, dei locali, del benessere dei locali e della sostenibilità. Alle attività sociali, cioè quelle delle nostre associazioni quando facciamo le nostre feste, da dire cosa per esempio quello che è riferito alla cucina o tutto quello che viene dato come mescita, no? Anche di innovare quella parte lì, perché assolutamente, deve esserci sì. anche un occhio e ti sia il territorio che... E ti dirò di più, non si può arrivare a raccontare quegli accadimenti, quegli eventi un mese prima, perché è troppo tardi per indirizzare un turista. Tutto questo va, è una narrazione che deve cominciare adesso, subito, ora, a prescindere dal fatto che ci sia un evento che avverrà fra un mese o fra un anno, ma dovete cominciare adesso a raccontare questo territorio, adesso a farne parlare, e sopra man mano che arriveranno gli eventi a costruirci e appoggiarci anche agli eventi, perché raccontare un evento un mese prima vuol dire comunque invitare le persone al posto, perché o il turista che è già qui e ha già scelto di venire, che a quel punto coglie anche l'occasione e si appoggia a quell'evento in particolare, ma per motivare uno spostamento e la scelta di una destinazione piuttosto che di un'altra, per motivare al Trentino anziché all'Austria, alla Carinzia o anche alla Slovenia, io devo saperlo prima, devo sapere dov'è il valore aggiunto di questa destinazione, devo sapere perché qui ci si chiude a Castel Pisano nottate intere a ballare come pazzi e a bere invece con eventi fantastici e non avviene invece in Slovenia, devo sapere che se ho interessi musicali qui trovo un bacino di eventi, di cultura, di radicamento sul territorio, di un percorso culturale e musicale importante, perché magari sono uno molto esperto e a quel punto anche la mia narrazione potrà andare a battere su canali che sono già aperti. Non vado a sparare nel mucchio, andrò a cercarmi le famose nicchie che vi dicevo prima, andrò a cercarmi chi so per certo spostarsi per questi interessi, ed esistono, vi posso garantire che esistono. Esistono nicchie incredibili e non sono neanche così piccole quelle nicchie, bastano e avanzano un territorio a volte. Non è il fatto che adesso di fare una sagra di paese, una volta era automatico che funzionava. Adesso non è mica detto che funzioni. Cioè, se non la sai raccontare, se non sai. In cui le sono molto bravi, la festa dell'Atalanta vanno. Sì, vabbè, da qui sono esplosi fuori da. Ma tu non hai idea, io la vado molto solo. Sono tutti che sono bravi, l'Atalanta non sono neanche. Sì, è stata per le mani. Abbiamo comunicato delle cose veramente di altissimo livello. È stata per le mani. Alla campana dei Piatuti quest'estate, nessuno sapeva nulla. Gli ospiti erano ospiti locali, invitati. Ero a Manfredonia. A Manfredonia in Gargano due settimane fa e parlavo appunto del caso della Taranta del Salento, quindi comunque di Melpignano che è la porta del Salento, con i garganici, ok? Una sollevazione popolare. Perché mi hanno risposto quella non è Taranta, Taranta è nostra, ok? Puglia, Gargano e Salento, la guerra in Aulo c'è stata. Oltre a quell'aspetto lì. L'altro scandalo proprio. Perché parliamo di queste dinamiche, capiamo bene che le cose possono funzionare in un posto e non funzionare nel posto a fianco. E questo succede. Però ci sono dei punti fissi, cioè adesso non è più detto che anche la manifestazione tradizionale funzioni perché deve funzionare. Sì. Quindi sì. Quali potrebbero essere i canali adesso oltre a lavorare, che non oltre a quello di raccontarsi e di sapersi raccontare attraverso internet magari? Se qualcosa non funziona deve andare a controllare più che altro il mercato di riferimento, prima di tutto. Perché ammesso che il prodotto non lo vogliamo cambiare subito, perché sarebbe opportuno cambiarlo in funzione di come è cambiato il mercato, mi andrei a studiare il mercato. Se non viene più nessuno, arrivava, non so, un evento in cui arrivavano tantissimi tedeschi, ora sono scomparsi. Dov'è che vanno questi tedeschi adesso? E quello lo possiamo investigare. Si può cercare di capire dov'è che sono finiti. Se venivano da noi ora vanno da un'altra parte, qual è l'altra parte? E quella parte che cosa gli ha offerto? Che destinazione è? Cosa ha messo in campo? Che tipo di evento organizza? Che prezzi medi ha? Su che se l'è giocata? Che posizionamento ha sul web? Come si propone? Quali sono le dinamiche che hanno permesso a quella destinazione di sottrarci clienti? Potrebbero anche essere dinamiche che da noi non dipendono, che potrebbe anche verificarsi queste. Potrebbero aver aperto un volo dall'altra parte, che gli ha reso estremamente più comodo, esatto, la destinazione. Potrebbero aver attivato, che so, politiche commerciali, tariffarie interessanti, quindi possono diventare donne fino a un certo punto. Ma io non toccherei il prodotto prima di aver capito chi è che non ci viene più. Perché se cambiamo il prodotto e non sappiamo a chi andarlo a vendere, ricominciamo con la solita questione di prima, per cui stiamo progettando qualcosa per un utente che forse non esiste. Sì, sì, posso. Cioè, insomma, già il fatto che parliamo di residenti e di turisti oggi è superato, nel senso che se, come abbiamo detto prima, la vera ricerca del turista è dell'esperienza locale, del confronto con il territorio, della vivere la vita, no? Andando a vivere nelle case, c'è anche tutto il fenomeno del andare a mangiare, le persone che cucinano per turisti. Allora c'è lo spostamento da turista a residente temporaneo, si dice, ma persone che vengono in realtà a tutti gli effetti per il periodo in cui stanno sul territorio vanno trattati come cittadini, come residenti. Stanno 2 giorni, 3 giorni, una settimana, un mese, non importa, però non vanno. L'evento per i turisti non funziona più. A quel punto, nel momento in cui tu cominci a ragionare in quest'ottica, a cominciare a considerare i tuoi ospiti come diciamo residenti appunto temporaneamente, cambia anche il modo in cui tu pensi per l'evento stesso. Tutto il tema del recupero, del, non so, la qualità, il chilometro zero, tutto il tema ecologico piuttosto che di rispetto del territorio, ha un valore fortissimo. Noi in Trentino lo sfruttiamo, potremmo sfruttarlo molto di più, proprio come appeal verso il turista che viene da noi perché dice: trovo un territorio incontaminato, trovo i prati tagliati e falciati perché sono mantenuti bene, non sono. Queste cose fanno parte di un ecosistema complessivo di tutela del territorio e di racconto del territorio. Poi dopo, una delle cose che, diciamo, è difficile parlare di storytelling, no? Perché in realtà per certi aspetti storytelling è una parola stra-usata. Nel senso che quando Renzi fa le sue slide, lui adesso, almeno ufficialmente, quando vede il giornale, è lo storytelling di Renzi, perché ha cominciato, questo è in verità indubbio, a raccontare la politica in modo diverso. Ma quello è uno storytelling, cioè non so se chiamarlo davvero storytelling, cioè storytelling è una parola di gran moda. Storytelling in realtà è una tecnica anche complessa, che proprio parte da non tanto dalla storia, la storia è il passo finale, no? Diceva prima bene Barbara, se tu pensi che per promuovere il tuo evento basta, che so, raccontarlo una settimana prima, quello non è storytelling, quello è sì, comunicazione, è fare i volantini, per l'amor del cielo, giustissimi, no? Lo storytelling invece è comprendere a 360 gradi tutte le attività che fanno parte della un'attività istituzionale come un fondazione. Sì, sì. Assolutamente sì. Parte dai bisogni delle persone che vivono quel servizio, quell'esigenza, costruisce su quelle persone le loro esigenze, i servizi di misura, e dopo c'è anche lo storytelling. Diciamo, c'è Maffi che dice sempre, Maffi De Baggis, che noi conosciamo molto bene, che segue queste tematiche da tanto tempo, e dice lo storytelling funziona quando non si vede. Cioè, lo storytelling è prima, è a monte, e fa parte della organizzazione del servizio, della strategia, della progettazione e poi del racconto, ma vuol dire avere una trama, no? Io sto raccontando un territorio, bene, quali sono i macro elementi che voglio raccontare, i perni su cui voglio costruire la mia comunicazione e la mia narrazione? Immaginiamoci tutela del territorio, qualità della vita, paesaggio stupendo, beni architettonici. Poi, una volta che ho definito questi elementi, allora a quel punto parte la narrazione con la sua coerenza. E questa è una cosa importante, no? Perché io so che quando parlo del castello, faccio l'evento del castello, ma ci metto dentro anche i prodotti tipici, perché il chilometro zero, no? Nel nostro esempio, è un elemento importante, perché e tutte queste cose stanno insieme e in ogni passaggio della mia esperienza da turista residente, ma anche turista, perché poi dopo, cioè, si parla sempre dei turisti, ma i cittadini sono i primi turisti, cioè c'è questo drammatico problema nostro italiano, che io non so voi, io sono di Trento, io sono andato a vedere il castello del Buon Consiglio alle elementari, E poi quando viene qualcuno a trovarmi lo portano al castello. Una delle cose che ha fatto luce, cioè sono una cosa che ha fatto luce, bisogna riconoscerlo, ha fatto diventare uno spazio culturale, un luogo di aggregazione. Tu vai al museo perché succedono delle cose lì e poi ti guardi anche il museo, c'è il concerto, c'è lo spettacolo, cioè è diventato trasformare gli spazi culturali in luoghi di aggregazione. Tu al British Museum a Londra ci vai, punto. Due anni a progettare queste cose che certo, ma non stiamo dicendo che sia facile, stiamo dicendo, però ma si comincia. Hanno girato tutto il mondo prima di capire quale erano. Sì, sì, sì, però devo dire ci sono riusciti, insomma. Al British Museum, che è gratuito, il museo... La collezione permanente, credo, sì, soltanto. Sì, tu ci vai, cioè i londinesi ci vanno, cioè è un luogo di come vanno al pub, vanno, vediamo cosa c'è stasera al British, no? Perché succede sempre spesso qualcosa, e poi se ci sei tanto gratuito, vai. Che hai no? Appuntamento alla Tate, nella Uda Tate, sì. Questo è storytelling, questo è costruire un'esperienza dei suoi e poi raccontarla, no? Raccontarla poi, qua c'è tutto l'altro tema che è enorme, legato al fatto di, ricordiamoci, che se pensiamo di essere noi quelli che raccontano, non abbiamo capito niente. È finito il tempo in cui noi raccontavamo il nostro evento, il nostro territorio. Ormai il ribaltamento della prospettiva si è spostato totalmente e sono turisti, cittadini residenti, temporanei, che chiamiamoli come ci pare, sono loro che hanno in mano le chiavi del nostro paese. Noi vediamo il lama e il resto però montano su loro. Sono loro che con i loro telefonini, in telefono. Voi, ogni volta che siete in giro. Un amico del cardonazzo mi ha detto come ti è cambiata a mettere le guardie se vuoi fare una colazione. Perché glielo raccontano i turisti adesso. Ma la colazione poi, quando non puoi metterla nelle camere, metterla nella sala comune dove si mangia è una furbata enorme. Perché quando si mangia le persone sono A, rilassate, B, hanno più tempo, C, scattano foto al cibo. E quindi comunque di default quel momento diventerà un momento di condivisione. Soprattutto se la colazione è all'altezza. C'è tutto il passaggio della comunicazione che dice non preoccuparti tu di comunicare, ma fai in modo che gli altri possano parlare di te. Quindi fai la colazione come si deve, dando il wireless, eccetera. Fai, non so, nel tuo un angolino dell'albergo carino con le cose un po' specifiche, particolari. La terrazza, c'è ad esempio un bellissimo albergo di Firenze che ha una terrazza a scritto piano con vista sul Brunelleschi. Fantastico, meraviglioso. Cosa ha fatto? Ha messo una camicia. Vale anche una sagra, vale anche per vale per tutto. Vale anche, ma certo. Si fa raccontare ai propri utenti l'evento, l'emozione. Ho un esempio in casa diretto. Io seguo direttamente la comunicazione social e digitale per un grosso evento che si chiama Maker Faire, è un evento di innovazione. Non so se conoscete il movimento Maker, tutto quello che gravita intorno alla stampa Maker Faire. Il movimento Maker è quello che nasce intorno alla innovazione dal basso, quindi la stampa 3D per intenderci. Con la stampa 3D ormai si stampano organi umani che vengono trapiantati, si stampano gioielli, si stampano scarpe, qualsiasi cosa. Da quel movimento è nato un vastissimo movimento ancora più ampio di innovatori da garage, cosiddetti. Quindi comunque persone normali che pur non avendo particolari skill specifiche, però sono comunque inventori e che riescono a mettere su progetti molto interessanti. Il più grosso evento europeo si tiene a Roma ogni anno. La community su Facebook ha quasi 20.000 like, su Twitter sono circa 13.000, siamo saliti di quasi il 50% in neanche 8 mesi, con un lavoro di storytelling fatto seriamente. Problema di quest'anno, problema enorme, l'evento si svolge all'Università La Sapienza, okay? All'interno degli spazi dell'università, che viene chiusa per 4 giorni per ospitare l'evento. Gli studenti vengono inviati a pagare un biglietto ridotto, calmierato, bassissimo, 2 o 4 euro in confronto ai 10 del biglietto standard, per l'accesso alla fiera. Pochissime proteste, quelli che protestano però il giorno dell'apertura arrivano e protestano male. La polizia, che non aspettava altro, carica. Forse l'avete visto anche in TV. Gente, modello G7 Genova, con teste squartate, con sangue, 8 feriti, 5 arresti, tragedia, ok? Dentro 40.000 persone, di cui 15.000 bambini e ragazzi delle scuole che si divertivano come pazzi, fuori 70 persone che protestavano, 150 cittadini, tutti feriti e sangue ovunque. In TV la tragedia, sui social la tragedia, perché naturalmente quel movimento di 70 persone, quando ha visto ha documentato in tempo reale la carica naturalmente, ma ci si, gli si è aggregato intorno un movimento molto più ampio, dai Nogloba, dai Tab, a chiunque altro. Abbiamo avuto la pagina, le pagine dei social invase di commenti che non erano attivi, erano peggio, erano terrificanti, erano video che riprendevano momenti della carica, erano cose veramente imbarazzanti. Reazione della gestore della pagina, sottoscritta. Ovviamente ho chiesto alla direzione come dovessimo comportarci con le queste strategie, è stato risposto: fermi, non diciamo niente, ne restiamo fuori, non riguarda noi, riguarda l'università, quindi ne restiamo fuori. Scelta condivisibile a me, non può darsi. Scelta assolutamente insperata da parte del pubblico, difendere l'evento rispondendo a quei commenti. Io mi sono trovata con, di quelle 20.000, 19.000 persone che ci seguono, una buona percentuale, più alta di quella che commentava in maniera negativa, che attaccava i commenti negativi e difendeva l'evento. Tutto questo... Cosa vuol dire? Che è meglio star fermo? Tutto, no, voglio dire che anche quando una strategia non ce l'hai, se hai costruito una buona community, un buon storytelling prima, ti torna comodo in caso di emergenza, in momenti di crisi. Perché da noi in ufficio la reazione è stata: oh, paralizzati, non sappiamo cosa fare, nel dubbio non parliamo. Che non è una strategia, che non è una strategia, ok, assolutamente. Perché erano settimane che si preparava questa cosa, potevamo averci pensato, non ha potuto pensarci nessuno. Ma la cosa bellissima, la soddisfazione di nostra, di team che ci lavorava, è stata quella di dire: caspita, abbiamo il panico in corso, giornalisti di Repubblica che ci attaccano e la community che ci difende. Se vuoi il succo, secondo me, comunque tu hai perso il controllo della comunicazione. Se sei stato bravo perché hai costruito nel tempo, c'è qualcuno che parla di te e ti supporta anche in situazioni che in effetti la mia, perché la situazione era anche tiratissima, cioè questi, no, proprio, questi, cioè la protesta ideologica, non ci permettono di entrare nella nostra università. Ovviamente erano studenti che erano 6 mesi che andavano all'università e non si doveva quel giorno perché bisognava pagare 2 euro. Cioè quelle situazioni lì provocatorie per certo aspetto, però anche dal punto di vista comunicazione sono drammatiche. La creazione di fiducia attraverso la comunicazione. Eravamo convinti, abbiamo fatto più 56% su Facebook in 8 mesi, eravamo convinti di aver fatto un buon lavoro, ma non ci aspettavamo un lavoro così buono, perché è un pubblico estremamente variegato, perché tu hai dalla mamma con bambini che li porta a fare attività educative e hai il maker scienziato che sviluppa cuori artificiali per neonati, quindi comunque sono community con linguaggi estremamente diversi. Eravamo molto molto timorosi del fatto che comunque avremmo avuto una pessima risposta. La comunità a tutto tondo ci ha difeso, attaccava gli attaccanti, per intenderci. Cosa terribile è stata poi il monitoraggio della percezione, della reputation, che abbiamo analizzato naturalmente durante 3 giorni, 28.000 tweet in tre giorni, soltanto su questo evento, solamente nei giorni dell'evento, per intenderci. Quindi mostruoso come movimento di 120.000 partecipanti paganti, 350 espositori, quindi un evento veramente molto grosso. La reputation era bellissima, salvo il momento della carica della polizia, dove il picco era il più alto in assoluto. Hanno parlato di noi tantissime persone, ma tutte malissimo. E le parole chiave monitorate sui social che sono emerse di più erano appunto carica, erano sangue, erano feriti ed erano arresti. A dispetto delle altre tantissime parole chiave come innovazione, come non lo so, futuro, eccetera, carica e sangue erano quelle che comunque uscivano di più. Non abbiamo potuto diffondere il report pubblicamente, lo possiamo dire in questi contesti, ma il report pubblicamente non uscirà con dovute spiegazioni adeguate, adesso lo possiamo raccontare che comunque il peggio è passato. Però questo per darvi la misura di come costruire un buono storytelling, una buona narrazione prima, anche quando non te l'aspetteresti così buona, effettivamente da torna comodo. Certo, abbiamo comunque un problema enorme che andrà comunque gestito. Però comunque crearsi una buona community mantiene alta anche la fiducia, mantiene comunque un rapporto in piedi a dispetto di eventuali momenti di crisi e rafforza anche un po' la fiducia nel lavoro che avete fatto. Quindi comunque dovesse capitare una situazione, ecco, capita l'emergenza, Parigi la settimana scorsa ha avuto grossissimi problemi dal punto di vista di comunicazione, è evidente. Parigi ha, ma non solo Parigi, molte capitali europee, anche Roma ha avuto un allarme ufficiale dall'ambasciata americana che ha vietato ai suoi cittadini di avvicinarsi ad alcuni oggetti culturali della città, il che vuol dire cancellazione a manetta, e sono già arrivate moltissime di cancellazioni col giubileo alle porte, peraltro, quindi è drammatica anche per noi. Roma non ha una strategia di comunicazione social sul turismo, non ce l'ha, ce l'ha la regione, ma non la città, non esiste neanche un account ufficiale della città che risponda ai turisti, non c'è. E nessuno se ne sta preoccupando, però qualcuno ha analizzato la reputation della città e ha subito un forte contraccolpo negli ultimi mesi, per esempio, per le varie vicende politiche, anche amministrative, anche logistiche, pratiche, mezzi pubblici che non vanno, i rifiuti e quant'altro. Quindi quello che voglio farvi capire è che se si costruisce comunque una buona narrazione, strategicamente pensata con buone intenzioni e con qualche strumento che sia serio e adeguato, si riesce a fare un buon lavoro ed è facilmente anche misurabile ed è facilmente anche documentabile in termini economici, perché poi ritorno comunque alla rete. Però la narrazione deve coinvolgere anche i partecipanti, gli interessati, è fondamentale questo aspetto. Nessuno ci avrebbe diritto se non avessero avuto la libertà di parlare tranquillamente in quella maniera. Questo vi volevo chiedere, nel coinvolgimento dei partecipanti capita spesso che l'evento non ti puoi geolocalizzare l'evento, perché evidentemente non è stata una strategia pensata di creare l'evento su Facebook, ma di questo in tante occasioni, cioè sì, è vero, succede spesso, succede, ma è successo, cioè, ieri, per poter dire la mia community business sono al convegno della provincia sul turismo, io non mi posso geolocalizzare al convegno, c'era un wifi, non c'era un hashtag, erano chiusi, l'hashtag l'ho fatto dopo. Sì. Però geolocalizzati sono qui per capire se altre persone, certo, ci incontriamo, ci sono, certo, comunque per vedere cosa stai facendo, come il curriculum parla del... E lì abbiamo fatto il discorso, ci si improvvisa molto spesso sulla comunicazione. Non c'era, o comunque sia gli eventi che anche i luoghi, cioè in quanti rifugi ho detto, ma se io vi trovassi potrei dire che sono qui, e sai quanti direbbero che sei lì, allora sono così. Aspetta, li prendiamo insieme. Oppure no, alla prossima volta me la devono consigliare. Se posto la foto, però non posso negarla. Ma nel senso, siamo al quarto incontro, non c'è una sala che abbiamo incontrato con un wifi che funziona. Ci sarebbe e non funziona, non c'è proprio. Probabilmente c'è, però è debolissimo. Ah, ok. E anche l'altra sala siamo riusciti a chiamare appena. Perché non sono sale destinate spesso a fare eventi, immagino. Sono sale pubbliche. Anche lì secondo me va cambiato un po' la percezione su queste cose qua, perché. Beh, avremmo potuto raccontare in diretta l'evento, per esempio, si può fare col segnale del telefono. Si può fare col segnale del telefono, però qualcosa adesso lo vediamo a prescindere, insomma. Però sicuramente sì. Il discorso dell'improvvisazione è importante. È una preghiera. 22:20. Una preghiera anche personale. Se, quando, come vi approccerete a tenere la comunicazione, fatelo facendovi supportare la persona che è un professionista, ma non perché devono lavorare anche i professionisti, sennò devono fare un lavoro fatto male. È una scienza la comunicazione, ha una facoltà universitaria, c'è un motivo per questo, insomma, ci sarà anche una ragione probabilmente. Esiste anche tanta incompetenza, come in tutti i settori, però esiste anche tanta competenza. Non si mettono sui social i nostri nipoti, perché tanto stanno sempre su Facebook. Non si mette su Twitter mia figlia, perché è tanto creativa, ci si mettono professionisti. Se no capita come le gatti l'altro giorno, avete visto il caso delle gatti, ecco. O come tanti altri casi. Su quei casi dove c'è, come dire, un grosso errore della casa a promuoversi, Luigi mi faceva notare che i like aumentano. Ma i like da soli non sono un indicatore, cioè il like da solo non è un indicatore, è l'engagement. Questo è vero, però voglio dire, se io clicco like... È la vecchia teoria, sì, che se ne parli bene, che se ne parli male, basta che se ne parli, che però funzionava in un'epoca appunto di, sì, una comunicazione a una via, in cui io, sì, un grande brand in televisione andavo a dire compra la Vazza perché sono il caffè più buono del mondo. Oggi, in cui la comunicazione è, abbiamo detto, perlomeno a due vie, nel senso che io parlo a voi, ma voi parlate con me, e anzi sempre di più il potere di chi... degli utilizzatori del servizio o degli amanti del brand è sempre più forte, vediamo il caso della Make Affair prima, questo aspetto qua io ci stai molto attento. Poi dopo è chiaro, sempre c'è stato il caso, c'è stato il caso, per dire, bisogna stare anche attenti a non dare troppa rilevanza a quello che succede sui social, no? C'è il caso di Report con Moncler, che Report ha fatto questo servizio, attaccava Moncler ha avuto un picco negativo, una reputazione pessima, tre mesi dopo l'azienda tornava, nel senso che quando le cose, non è detto che le cose restino per sempre, se dietro c'è un valore assoluto, se è solida dietro, esattamente, nel bene e nel male, se si fa una comunicazione straordinaria ma dietro non c'è la sostanza, non c'è il prodotto, la tua comunicazione è inevitabilmente destinata a... Ti vengono un sacco di pandori quest'anno, sì, beh, certo. E se parliamo di casi, non so se avete visto il caso dei gattini a Conserva, avete presente? Praticamente è successo che la gente su Twitter andava a dire: ho visto la polizia qua dietro che attaccava, e la polizia ha detto: signori, piacere, non scrivete sui social network quando ci vedete, perché insomma, se siamo lì probabilmente è perché stiamo andando a cercare un qualche terrorista, e allora non hanno smesso e si sono sostituiti in maniera fantastica raccontando le azioni della polizia in maniera finta, mettendoci dei gattini, gattini vestiti da ninja, gattini che... un'invasione, diciamo, un live tutto, no? Con ovviamente con l'hashtag di riferimento. Sì, che è stato, che è stato in realtà, esatto, è stato in realtà un segno di partecipazione, no? Nel senso che ok, io ho capito la polizia ha ragione, però non è che sto zitto, continuo a supportarti e alla fine la polizia cosa fa? Il giorno dopo ha postato un piatto di crocchette dicendo grazie a tutti i gattini che ci hanno aiutato, no? Insomma, sono quelle piccole dinamiche che succedono in rete, ma succedono soltanto anche qui perché c'è una comunità che percepisce un significato, un valore. È chiaro che tutti capiamo che in effetti non è molto sensato dire alla nostra polizia entrare al civico 32 di nomi, perché se sono andati lì ci sarà un motivo, insomma. Però anche lì la comunità ha reagito ed è stato bello questo scambio. Ma perché la polizia belga comunque comunica regolarmente sui social con la sua comunità, quindi ha già creato un canale che permette di essere rispettato come soggetto. Qui da noi nel caso dell'emergenza dicono, non so cosa fare, esatto. Perché il caso di Danza non lo fa. Quando si è venuto fuori il caso di Danza, quello che la provincia, cioè, c'è stato un mese di... sapete cosa è successo? Tra agosto più o meno è stato ferito una persona, e lì è venuto fuori che Danza era pericolosa e c'è stato un gran movimento ambientalista a difesa di Danza che ha fatto un gran casino, giustamente, no? Del bene, del male, dentro del merito, no? Di fare male della... però insomma con posizioni un po' estremiste, altre un po' più sensate, un gran casino. A un certo punto l'11 di settembre decidono per la cattura usando anche un sistema che è potenzialmente pericoloso. Era già successo che nel catturare un orso Boris, no? Era il terzo che uccideva, però prima ci sono 50 orsi, ne è morto uno, non lo sa nessuno. Quella lì era un mese che c'erano una gran battaglia di comunicazione, aveva i cuccioli, eccetera. Morale, sapete la storia, provano a catturarla, gli sparano con la siringa e l'orsa muore. Diciamo che in generale c'è stato un crollo della comunicazione da parte della provincia. Sì, sì, cosa decidi di fare la provincia? Terribile, non è stata la morte dell'orso, è stata la provincia che non ha potuto comunicare. Io li ho salvati e ho fatto un caso su queste cose qua. I comunicati stampa della provincia erano questo tipo, utilizzato un metodo di, come si dice, di indormio per la torlorsa, l'orsa è deceduta. Comunicato stampa della provincia, quando c'era fuori il mondo, no? Che, esatto, che non hanno ascoltato dall'altra parte. I social morti, assolutamente. I social zitti, poi ho fatto la comunità cominciava a chiedere. E lì, dopo per due mesi, è stato un dramma. Ecco, non essere pronti, questo è appunto storytelling, è spaventarsi, no? Quindi invece la polizia belga, perché ha potuto fare questa azione? È stata ascoltata, perché appunto è dentro una narrazione, è dentro, è in dialoga con il suo territorio in maniera costante ed efficace. Allora, se appunto non ti serve, a quel punto ti viene anche ascoltato. Vediamo che la tua attività mentre racconti, l'utente, poi è il valore aggiunto che ti aiuta poi, come dire, a esprimere ancora di più. Tu non stai comunicando per te, stai comunicando per lui, con lui. La differenza è questa, non è più la comunicazione è un discorso a due vie, vai e torna, non è più un concetto pensabile nell'ottica del ti dico qualcosa e tu la ascolti, perché tu non la ascolti, tu la prendi, la fai tua, la rielabori, la metti su quattro piattaforme diverse, ne fai qualcosa di diverso. Se io non sono consapevole di questo, non ottengo rispetto come interlocutore da parte tua. La polizia belga è rispettata come un pari da chi sta sui social, perché comunque normalmente utilizza quella piattaforma, lo fa in maniera coerente e sensata e quindi gode di credibilità. La gioca per la quale nel momento in cui qualcosa si verifica chiede, gli altri osservano e obbediscono, perché comprendono la richiesta, perché la valutano come meritevole di attenzione e di rispetto. Se io non rispetto il mio interlocutore e cado Melegatti, lo massacro. Melegatti non perderà grosse quote di mercato sicuramente, non venderà i pandori con Scano, ma venderà gli altri sicuramente, non è un problema. Però farà fuori sicuramente il suo... Non avete conosciuto il caso dell'altro giorno? Ve lo racconto poi a margine. È un caso abbastanza clamoroso sui social. Però sicuramente comunque accuserà il colpo, non c'è dubbio, insomma, perché non c'era sui social fino a quel momento, non esisteva, non c'era stata grande reputazione e nel momento in cui hanno completamente cambiato la comunicazione, la comunità non ha retto ovviamente, l'hanno sbagliata e non hanno trovato dall'altra parte nessuno che fosse disposto comunque a considerarla ancora credibile. No. Fissatevi su quest'ultima frase, non sottostimare mai il potere di una storia. Questo è, secondo me, il video più bello che rende meglio qualunque concetto possiamo raccontarvi a parole, in realtà. Vi è chiaro quanto è importante comunque narrare bene qualcosa e quanto si riesca a venderla in maniera gradevole. Questo chiaramente è un divertimento, è una metafora. Però confezionare bene un racconto significa comunque davvero essere in grado di ingaggiare l'altro a un livello che neanche immaginiamo ancora e a tenercelo stretto. E se poi parliamo di un turista, che quindi abbiamo tutto l'interesse a riportare su questa destinazione, su questo territorio, e parliamo di locali che hanno tutta la voglia di farsi conoscere in questa maniera, questo diventa ancora più importante. Gli strumenti ce li abbiamo comunque tutti i social, abbiamo tutti i canali comunque visual, che possono essere appunto, come dicevo, anche Pinterest e Instagram. Pinterest e Instagram sono due dei social che convertono di più in assoluto. Convertire vuol dire comunque trasferire dall'informazione all'acquisto. Entrambi abilitano la possibilità di collegare alla foto direttamente un link al sito per procedere anche verso l'acquisto o comunque verso un sito di informazioni. Quindi immaginate quanto importante possa essere per una destinazione che si basa moltissimo sul discorso visuale, quindi comunque sulle foto, sulle immagini, raccontarsi usando quei canali. Quanto può essere importante il valore che aggiunge a una comunicazione tradizionale l'idea di mostrare qualcosa, di contemporaneamente guidarti direttamente sul sito che ne parla, dove posso approfondire, dove posso anche prenotare eventualmente. E poi parlare di questa cosa, no? Quello che si diceva prima, questo albergo fiorentino di cui parlavo prima, un posto meraviglioso ovviamente, non tutti abbiamo visto sulla cupola di Brunelleschi, ma lui che l'ha fatto? Sì, questo cartello gli sarà costato 100 euro. E lui non parla di questo cartello, vedete che sotto c'è scritto Plaza Marchesi, Imperial, Florence Hotel, ci sono i suoi social. Questo è lui, e cosa fa? È talmente bello che la gente si mette lì, si fa la foto ovviamente, no? E dopo cosa fa? Di quella foto la mette su Instagram, la mette su Facebook, su Twitter, dove gli pare. E lui ha speso, invece che fare la campagna video, da spendere 15.000 euro, ha speso 100 euro, ha messo il cartello, e sfrutta, i suoi turisti, i suoi visitatori, ovviamente offrendogli una bella esperienza, perché non li ha messi in cantina, no? Perché se avesse un luogo per far colazione giù in cantina al freddo con la brioche confezionata, ecco, quella cosa è meglio non dargliela, ma se proprio non è il posto migliore dove farsi raccontare. Scegliere il posto, l'esperienza migliore che riusciamo a offrire e stimolare in maniera positiva, senza obbligare il vostro turista a raccontarla, è un canale di una potenza incredibile e allo stesso tempo è parte di una narrazione, nel senso che se non avete chiaro che quello che si dice di voi è forse più importante di quello che voi stessi dite di voi, della vostra offerta, vi manca un pezzo, no? Nel senso che pensate a un ristorante, siete mai andati a un ristorante che dice venire da me perché c'ho la roba un po' vecchia, devo finire le avanti, sei fine stagione, ma sì, parati, perché spesso si dice, no? Quando vengono offerte, tutti i ristoranti ovviamente, no? Lo chef ti dice ma avrei la trota fresca, perché quella dei due giorni prima li devi far fuori, no? Quindi bisogna fidarsi fino a un certo punto, ovviamente non nei casi di eccellenza. Invece il turista è percepito perlomeno molto più affidabile, perché la recensione che qualcuno ha messo su TripAdvisor di quella trota è percepita come è uno che sta dalla mia parte, non è quello che volevo vendere, è uno che ha vissuto quell'esperienza. E questi dati hanno assunto un valore incredibile, ma un valore economico, nel senso che ci sono studi complessi che dimostrano, ma è ovvio, che un albergo a parità di stelle, a parità di servizio, a parità di posizione, eccetera, un albergo che ha una palla in più, sapete che su TripAdvisor sono le palle, sul TripAdvisor può vendere qualcosa del tipo qui a 15 euro in più a notte a persona. Quindi un valore economico è tutto margine, perché tu hai lo stesso servizio ma lo dai meglio, comunque riesci a farti raccontare meglio dei tuoi ospiti, e quindi io vado in un'avventura che non mi è mai interessato su internet, e l'hanno scoperto quando TripAdvisor che ha consegnato il certificato di eccellenza perché sono i migliori in zona. Allora è saputo, allora è fantastico, perché si parla di voi anche se voi non lo sapete. Questo cioè, è vale e voi dice. Non potete mai informarvi. Quando la gente si lamenta che mi ha dato quella recensione, non serve niente lamentarsi, serve rispondere in certi casi, soprattutto quando la lamentela è evidentemente, insomma, è successo qualcosa, insomma, rispondere fa sempre bene, Ma invece che lamentarti di quelli che hanno parlato male di te, prova a leggere, ci sarà un perché, tante volte c'è un perché, no? Migliora il tuo servizio e vai avanti, no? Cioè, e qualora anche perché non ci fossero, incrociasse quelle che sono le tue convinzioni, quello è il tuo cliente e non è stato bene per qualche motivo. Quindi, visto che ti legge anche tutto il mondo, è opportuno comunque rispettarne la posizione, cosa che molto spesso non fanno. Sì. Che neanche le destinazioni fanno molto spesso. No, certo. Provate a scrivere a un account di qualche destinazione. È difficile in Italia, intendo. È difficile che vi rispondano con una certa rapidità. Abbiamo specialmente poi di problemi contingenti, nel senso che so, ho una difficoltà sui trasporti, qualcosa di logistico che non va, e magari scrivi all'ente del turismo che se ne occupa o alla PT di riferimento. Il più delle volte nel weekend non vi risponderà nessuno. Più delle volte la risposta può essere veloce su Facebook, ma non lo è sugli altri canali, quando invece è richiesta una certa velocità. Visto che siamo questo po' di tempo per drammatizzare un po', c'è questa bellissima vignetta che a me riguarda un po' la vendita, più che però diciamo c'è la signora che va a comprarsi le scarpe, in inglese scusate, ma insomma ne prova 72, cioè poche in realtà, magari c'è la media, e a un certo punto trova quelle giuste e al commesso in ginocchio gli dice: oh, finalmente queste sono perfette, non posso aspettare, voglio comprarle, le compro online, mi dai la password del wifi? No? Quindi è talmente cambiato il rapporto, quando dico che la comunicazione in mano al turista è anche questo, no? Il turista è ormai ha gli strumenti, ha i canali di comunicazione per influenzare in maniera significativa il nostro operare. Allora bisogna saperci dialogare con questo nuovo approccio, no? Bisogna saperci comunicare. Giusto per dire, scegliere se essere pecora o lupo, no? Nel senso che si è talmente ribaltata la questione che ormai siamo diventati, cioè, chi offre servizi è diventato una pecora in balia dei turisti che ti dicono: o mi fai lo sconto e ti faccio la recensione negativa. Beh, in balia, oppure come questo operatore che va dritto con la sua strada, lavora bene e poi gli arriva il certificato di eccellenza. Sì, certo. La qualità del prodotto, la qualità del lavoro funziona sempre, però non mi sentirei di spingere come modello corretto fregarsene altamente, perché comunque anche dentro quelle recensioni, per quanto lavorerà bene questo tour, qualcosa che non va c'è sempre, tante volte mi capita intanto di anche dentro le recensioni positive di segnalare: ma guarda che insomma, se a colazione ci fossero state le marmellate biologiche invece che quelle delle cose, sarebbe stato tutto perfetto. Ti do magari un'ottima valutazione, però è una mia. Cioè, sta a te ascoltare o non ascoltare, perché dopo ci sono anche rompiscatole, ovviamente. Però l'ascolto è fondamentale. Cioè, comunicazione nei tempi oggi è anche ascolto, no? È la reputazione, vuol dire ascoltare, vuol dire capire cosa si dice di me, capire che cosa, perché sono. Per come vengo percepito, perché insomma, senza scomodare Pirandello, insomma, quello che noi stiamo dicendo questa sera, siamo convinti di avervi dato un certo messaggio, ma dopo ognuno di voi avrà la sua interpretazione. E se, perché alla fine di queste cose certe volte si fanno i questionari, no? E perché insomma, giusto per capire, insomma. L'altra cosa che è straordinaria all'interno di questo contesto è che questo ricchezza di informazioni, perché oggi twittiamo, no, scriviamo su Facebook, fotografiamo, no? Basta andare a un battesimo, un bambino a un battesimo oggi prende più foto quel giorno lì di così di tutta la vita, per fortuna da certi aspetti quanto riguarda, perché insomma, però insomma è così, no? E quello che sta succedendo è che il mondo, esiste una quantità, i famosi big data di cui si parla tanto, di dati che è incredibile. Questi dati contengono un sacco di informazioni e stanno nascendo sempre più dei servizi che ci permettono di prendere questi dati e di capircene qualcosa di quello che succede. Ad esempio, in maniera predittiva. No? Predittiva. Cioè, se tu prendi, ad esempio, i dati delle cellule telefoniche, non c'è scritto il nome, però c'è scritto la nazionalità, per dire, tu riesci a capire perfettamente, ad esempio, dove vanno i cinesi in Italia. All'interno del singolo evento. Dove vanno i tre posti, vanno i cinesi. Venezia, Firenze, Roma, fine. E apre. Come va? Gli apre. Gli apre. Sì, però voglio dire, il grosso è lì. No, no, no. nelle direttrici la reputazione, perché poi, il discorso della reputazione, le recensioni sono quelle che io prendo carta e penna e mi metto lì e dico l'albergo tal dei tali, il ristorante tal dei tali, ho mangiato bene, ho mangiato male, ed è una scelta esplicita di voler fare una recensione che richiede, non tutti fanno, no? C'è tutto un tempezzo della reputazione che invece è molto più sfumato. Banalmente, i posti più fotografati al mondo, i ristoranti più fotografati al mondo, sono, è già il fatto che lì si facciano tante fotografie che nessuno abbia voglia di tirare fuori la macchina fotografica, è un indice del fatto che ci sia interesse o non interesse. Andare ad analizzare i dati dei vostri social network senza il vostro nome e cognome, no? Perché si prende il dato aggregato, e capirne quello che mi ha chiamato il sentiment, no? E cioè positivo o negativo, anche quello sono delle opportunità incredibili. Poi dopo ci sono aziende, adesso se hanno fatto 15, la settimana fa un grande evento Focus, diciamo di Focusrite a Miami, e tutto il nuovo trend era sull'analisi dei big data, quindi la comprensione dei comportamenti del turisti e l'esperienza personalizzata. E quindi cosa faccio? Siccome analizzo che tutti quelli che vengono in Trentino gli piace il vin brulé e la, che ne so, la neve, anche ad agosto li faccio trovare la neve dentro le lettere. Poi c'è la situazione stereotipica che Trentino Marketing si sta anche lavorando sopra un po' troppo, cioè il fatto che quel territorio lì ormai, se cioè, viene visto con le mucche e il suonatore in cima ai Dolomiti, non se ne può più uscire. Ma perché probabilmente non escono loro, però. Sì. Non ne escono loro. Però esatto. Ci esistono tantissimi altri livelli nella relazione in cui si può far uscire quel tipo di informazione. Quella è un po' come il discorso sulla comunicazione nazionale, no? Usciamo come sistema paese con certe narrazioni, ok? Però non esauriscono tutto quello che è possibile, certo, sul territorio. Ed è lì che entrano in ballo i singoli più piccoli territori eventualmente. Noi abbiamo frammentato a livelli eccessivi e assolutamente deleteri la comunicazione del sistema paese, perché non abbiamo più. Noi comunichiamo per regioni e ogni regione fa a sé e fa male generalmente, mediamente. Da solo la Sicilia spende quattro volte quanto la Toscana e ottiene un quarto del risultato. C'è anche un problema qua locale, per esempio tra i vari comuni nell'area tra le due città, tra Trento e Rovereto, che in effetti dovrebbero comunicare assieme. Ma assolutamente. La campanile purtroppo esatto, è drammatica. Perché poi il turista poi non percepisce la differenza, lo spiegavo, esatto, per me è Trentino, quello, quindi... Cioè è quello che con tutti gli anni sotto a Castelbeseno, che a forza di invitare artisti, qualcuno, quando guarda giù da Castelbeseno, non ti interessa. Non vede il confine. Cioè. Non vede i confini, no? Che poi è bella anche dal punto di vista filosofico, però del fatto che lui la considera tutta l'intera valle, tutto qualcosa che è bello prima di tutto. Certo. È bello prima di tutto, certamente. Mi ricordo le risate di Napoletano, che raccontavo che quelli della sinistra Adige non è che dialogano molto con quelli della destra Adige, no? Ma dai, un fiume basta per far questo, gli dicevo, no? Vabbè, le logiche di campanile, diciamo, sono parte della nostra tradizione, della nostra storia, però sono anche valori, cioè, sono valori perché alla fine esatto, poi dopo c'è la sacra paesana, ci sono, quindi non sono sbagliate di suo, però dopo a un certo punto esatto bisogna capire che se tu vuoi fare comunicazione o proporre dei servizi a un turista, cioè, figurati adesso io per venire qui a Rumi era un po' di cose, ho tirato dritto quando sono arrivato a Rumi, ho detto che io lo vedevo, sono di Trento, pensavo fosse vicino a Isera, tanto per dirvi, no? E quindi se faccio io fatica a piazzare nomi tra Trento e Rovereto, immaginiamoci cosa mi interessa al napoletano di turno, no? Al milanese di turno che viene per trovare. Diciamo che c'è un problema di aggregarsi per le cose veramente importanti, certo. Urgenti adesso, più che per altre forme di aggregazione. Sì, però se torniamo al discorso di prima, dicevamo che si deve fare una narrazione territoriale coerente, ma i vigneti di nomi e i vigneti di italiano sono gli stessi. Cioè, adesso non è che voi diranno, no, i miei sono... Sai, però cioè, non si fa fatica. Che è produttore. Sì, nel senso che magari c'è diversità, ma non è il comune, cioè ci può essere che la zona collinare è un certo tipo... Infatti non si cita, no, non saluto, non si cita il comune, si cita la microzona. Questo ci sta, no, ma questo è bello dell'Italia, perché dopo, attenzione, non mescolare, perché c'è la divisione amministrativa, che è amministrativa appunto, serve per raccogliere rifiuti piuttosto che per fare, no, la distribuzione dell'acquedotto. E poi c'è invece quella che è la ricchezza, la diversità dell'Italia, che è straordinaria da questo punto di vista, perché ovunque vai fai 10 km e il paesaggio un po' cambia. Ma magari quei 10 km hai fatto tre comuni e è lo stesso paesaggio, e dopo è dentro lo stesso comune o dentro lo stesso comprensorio ci trovi tanta diversità. Quindi bisogna stare attenti a, a valorizzare la diversità, che va benissimo, senza però ricadere nel confine amministrativo, che io non parlo dell'evento che c'è a Castelbesena perché è un altro comune. Quando il turista che è qua da me, cosa gliene frega? Se è 5 km anche se è un altro comune, cosa mi interessa? Non è che lo so. Quindi da questo punto di vista... Passa il film e fanno eventi, un calendario che non tiene conto che c'è lo stesso evento. Tu sei a Prato, a 8 km c'è Boina? Sì, ma non si parla. Non si sa. Se ci sono due serate magari interessanti. Normalmente la stessa sera, poi di solito, esatto. Ma magari non c'è nulla. Che non parlarsi di quello. Modo di ricreare qualcosa. Il turista non c'è. Non è un problema da poco questo. Altri aspetti che... Altri aspetti no, c'è qualche altro caso interessante di partecipazione dal basso che è servita a muovere comunque comunità, aggregarle intorno a progetti veramente partiti dal nulla. Quanti di voi conoscono le invasioni digitali? Oh, abbiamo qualche invasore, avete fatto qualche invasione anche, avete partecipato? Okay. Le invasioni digitali sono un progetto nato nel 2012, 13. Nel 2013. Che nasce assolutamente da un'ispirazione personale di due persone, sono Fabrizio Todisco, che è un albergatore e consulente di marketing e infrastrutture alberghiere campano, e Mariana Marcucci, che è un'albergatrice e accrea appassionata comunque di marketing del turismo lucchese. Si rendono conto che effettivamente c'è un patrimonio culturale assolutamente inestimabile in questo paese, che non è neanche classificabile sempre soltanto attraverso grandissimi oggetti di interesse, no? Esistono tantissime altre realtà minori che non riescono ad essere valorizzate sufficientemente, perché sono magari appunto in territori minori, sono fuori dai grandi circuiti, sono piccole, spesso abbandonate, non hanno fondi, aperte solamente alcuni giorni a settimana in orari assolutamente sfigati, quindi assolutamente non fruibili. Cosa si pensa di fare? Si pensa di incrociare i due elementi, l'esistenza di questo patrimonio e l'esistenza di tecnologie e di strumenti social e quindi di comunicazione che possano permettere di raccontarli a un pubblico molto più ampio. Della serie, anche se non è aperto, io lo faccio conoscere al mondo raccontandolo usando il mio telefono. Le invasioni consistono in un mob vero e proprio, fisico, nell'arco di due settimane, in genere a cavallo tra il 25 aprile e il 1 maggio, quindi in quella frazione che comprende anche dei ponti, quindi dei periodi anche di vacanza o più leggeri, durante i quali le persone scelgono autonomamente un qualunque oggetto culturale, può essere un museo, un'opera d'arte, uno spazio fisico, qualsiasi cosa, e scelgono di invaderlo fisicamente raccontandolo sui social. Quindi vanno fisicamente presso il sito, lo visitano accompagnati da una guida o comunque con facendosi aiutare comunque da qualcuno, da guide cartacee o quant'altro, e lo raccontano al mondo usando Pinterest, Instagram, Facebook e Twitter. Okay? Ognuno con la propria personalissima narrazione, quindi 100 persone, 100 narrazioni potenziali diverse. Io ho avuto un retweet dalla Nuova Zelanda, dei mercati di Traiano, dopo 7 mesi, con qualcuno che mi chiedeva dov'è questo posto. Io gli ho risposto: è fuori, di fronte al Colosseo. Ma io ero lì e non li ho visti. Perché? Perché sui piedi fuori imperiale è tutta una rovina, e chi non è più o meno acculturato sulla differenza tra un foro e l'altro non si racconta del fatto che quello sia un foro particolare. Sergio ha organizzato l'invasione digitale il primo anno al MART, grande, eravate tanti, eravate un centinaio, mi sembra, giusto? Ce l'hai qua, ok. La foto di gruppo lì, più di 100. Tra l'altro l'invasione... Mi ha fatto una giornata di invasione. È cominciato a 30. Siamo trovati, ve la faccio vedere. Questa è... Siamo trovati la mattina, tipo alle 8:30 di mattina, no, questo era il giorno prima, in Piazza Duomo a Trento a fare colazione. Questa è una delle due, mia figlia, l'altra, magliette, eccetera. Sono anche attrezzati con magliette. Sì. Qualcuno ha preso le bici, qualcuno ha preso il treno, siamo andati verso Piero Veneto, vari incontri, eccetera, appunto quello, l'invasione di Castelbesena da lontano, senza andare su. E poi abbiamo fatto l'invasione del Marte. Ed è stato interessantissimo perché due anni fa il MART aveva ancora il divieto delle fotografie. Sì. Allora, lo conosco, insomma, quando le ho chiesto, facciamo l'invasione digitale, e gli avevo fatto vedere perché dietro l'invasione di Stati c'è anche un, c'è, c'è un progetto di liberazione della cultura, dal basso, eccetera. Gli avevo mandato il manifesto e loro mi hanno risposto: ma noi, sai, sì, bello, però siamo già abbastanza avanti, che è verissimo, no? Marte comunque è sempre stato molto avanti a queste cose. Non ci sentiamo tanto di essere invasi digitalmente. Io gli ho risposto, avevo confidenza, ho detto, non siete, cioè siete digitali, ma siete dinosauri digitali, perché non si può fotografare dentro, no? E oggi è ridicolo non fotografare. Allora sono stati bravissimi, hanno fatto questa cosa, vedete in basso, hanno rivoltato l'invasione. Invece di farsi invadere, cioè si sono fatti invadere loro, quindi hanno organizzato loro facendo un kit e hanno invitato, quindi è stato un'ora, era il 25 aprile, giorno di festa, giornata splendida tra l'altro. E quindi quell'ora lì, ingresso gratuito per gli invasori, possibilità di fotografare. E quindi scene fantastiche, vedete che ci siamo tutti noi che fotografiamo, con le signore, che il controllore del museo, che impazzite. Sì, che loro abituate a stare erano alcune erano prese benissimo, un paio, quella un po' più rigide, è stata una bellissima che a un certo punto, non potendo vietare, ha detto: ricordo a tutti però che tra un quarto d'ora sarà vietato di nuovo, cioè ha bisogno di tornare al suo ruolo. E tra l'altro dopo il Marte è stato uno dei primi, ancora prima del decreto, diciamo, anche grazie alla spinta di questa giornata, a capire che l'approccio di vieto